allora grazie. Il video aveva un senso, quello di aiutarvi velocemente e non tenervi 25 minuti a raccontarvi cos'è avviso pubblico e perché il Comune di Bologna ha individuato in avviso pubblico il partner per realizzare questa rassegna. Avviso pubblico, avete visto, è fatto da 440 enti soci che sono tutti enti pubblici, province, città metropolitane, 10 regioni, ma per la gran parte comuni, che hanno il comune denominatore di provare a costruire momenti di riflessione, formazione, sensibilizzazione e un percorso interno di attività amministrative destinate al contrasto, all'infiltrazione mafiosa e alla corruzione. La vostra regione è socia di avviso pubblico, il Comune di Bologna è da lunghissimo tempo socio di avviso pubblico e prova in questo sforzo che vedete che è uno sforzo non facile. Spesso io sento dire che gli amministratori pubblici non hanno sensibilità su questi temi, però mi rendo conto, andando in giro e con grande sforzo, che non è una cosa che riguarda gli amministratori pubblici, forse è una cosa che riguarda un po' il paese. Non siamo molti ed è lo specchio un po' della realtà che viviamo. Ed è uno specchio che ha delle cause e ha degli effetti. Gli effetti ricadono anche nell'ambito dei temi che andiamo a trattare questa sera, perché gli effetti sono poca conoscenza di cosa succede e quindi poca consapevolezza e poca capacità di intervenire in fenomeni che quando sono conosciuti, sono conosciuti per lo più per sommi titoli, e invece sono fenomeni complessi con diversi elementi di profondità e di difficoltà e con diversi elementi di difficoltà di azione per gli enti locali. Allora, io sono contento di avere stasera qui con me due persone che hanno una profonda cultura su questi temi, appunto li ha presentati brevemente Giulia, e sono Antonio Pergolizzi, che da anni è curatore del rapporto di Legambiente sulle ecomafie, è un ricercatore, è un giornalista, e ha scritto diversi libri su questi temi e da anni soprattutto fa ricerca. Marco Mizzolo, anche lui è un ricercatore, lavora per Eurispes, ma anche lui ha collaborazioni con varie università ed è soprattutto una persona che ha prodotto un'esperienza che è un unicum, perché relativamente al tema delle agromafie, una ricerca in qualche modo che lui stava facendo, un'inchiesta potremmo dire che lui stava facendo, ha finto di essere un bracciante nella zona dell'Agropontino e per 3 mesi ha vissuto con i braccianti indiani di quell'area, permettendo di entrare a conoscenza molto di più dei meccanismi del caporalato nel mondo dell'agroalimentare e permettendo anche in parte di dar vita ad un'inchiesta i cui esiti si sono visti nel periodo scorso. Allora, di cosa andiamo a parlare stasera? Stasera parliamo di ecomafie e agromafie, questo è il titolo. Ecomafia è un neologismo che credo che abbia inventato proprio Legambiente, e agromafie è altrettanto un neologismo, che stanno ad indicare sostanzialmente, sono termini che stanno ad indicare e a definire quelle organizzazioni criminali che operano in alcuni ambiti. Nell'ambito delle ecomafie sicuramente, Giulia ne ha parlato, il tema dello smaltimento e del traffico dei rifiuti è il più conosciuto, insieme al tema dell'abusivismo edilizio, ma non sono solo quelle le tematiche, perché insieme a quelle c'è il tema dell'escavazione abusiva, il tema del traffico degli animali esotici, io ne cito alcuni, il tema del saccheggio dei beni architettonici, il tema dell'allevamento di animali da combattimento e poi tutti quei temi che in qualche modo costruiscono l'area delle agromafie e quindi tutto l'intervento delle organizzazioni criminali che operano nell'agropastorale e in tutta la filiera del gastronomico. Ne parliamo, io credo che ci siano due elementi, quantomeno a me, che non sono un esperto del settore agromafie e ecomafie, colpiscono, ci sono due elementi, un primo, un dato che in parte ha chiesto, ha citato Giulia, ed è il giro d'affari che è prodotto, ho letto cifre che vanno dai 20 ai 16 miliardi all'anno, talvolta addirittura sommati, ci racconteranno meglio che cosa vogliono dire queste cifre. E poi io li trovo straordinariamente interessanti perché intorno a questi due modelli di organizzazioni criminali si costruisce la possibilità di leggere in termini di continuità, in termini di trasformazione, cosa sono, cos'erano e cosa stanno diventando le organizzazioni criminali nel nostro paese. Perché in quella realtà, in quei settori, si legge benissimo la capacità che le mafie hanno di affiancare imprese legali nel loro operare. Non solo di sostituirle, ma di affiancarle, di operare l'una a fianco all'altra. Si legge la capacità che hanno di cooperare l'una con l'altra in alcuni settori, scegliendo scientificamente di non confliggere, perché è molto più remunerativo cooperare che non confliggere. E poi perché si legge, dal punto di vista mio, che non è di uno specialista, è più di uno che ha uno sguardo, se vogliamo, storico sui temi, si legge quanto le mafie servono nella narrazione pubblica del nostro paese a nascondere l'operato dell'impresa legale e l'operato di gran parte del paese. Perché ogni volta che noi classifichiamo ciò che accade nel ciclo dei rifiuti, l'inchiesta nel ciclo dei rifiuti, con un titolo che esce su Repubblica, La Stampa, Il Corriere, Rai 1, Rai 2, Rai 3 come ecomafie, noi siamo portati a pensare che parliamo di mafia. E non vediamo tutto quello che c'è insieme alle mafie, tutto ciò che è preesistente come mercato illegale e che non è gestito da organizzazioni criminali. Allora, a me sembra interessante. Io per questo mi interromperei qui, chiederei a loro di aiutarci a entrare in due modi: prima con una narrazione più generale di cosa si intende per ecomafie e per agromafie, e poi dando alcuni focus specifici. La serata la organizziamo in questo modo: due interventi brevi da un quarto d'ora a 20 minuti. Marco e Antonio sanno che se sgarreranno io sono qui con l'accetta pronto a intervenire brutalmente, in modo poi da provare ad attivare un dialogo con voi e da rispondere a tutte le domande che voi vorrete fare. Se non ci saranno domande, siamo pronti a fare altri 20 finché non ci mandate a casa, perché è tardi. Allora, come è stato per il mio intervento, io metto un breve video e chiedo poi ad Antonio di intervenire a partire da quello. Mi sembra un video, è uno spot proprio, è una piccola clip prodotta da Lega Ambiente che sintetizza in qualche modo i dati del rapporto 2019, quindi dati che riguardano il 2018. È inutile che ve li citi uno a uno, dura un minuto e mezzo, mi sembra molto più efficace per costruire un primo quadro. Datemi solo un istante che smanetto e lo faccio partire. La bellezza di 3 reati ogni ora. Un business nelle mani di 368 clan censiti da Legambiente e attivi in tutta Italia. Ma il 45% dei reati viene commesso tra Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Ma quali sono gli ecoreati più frequenti? In testa alla classifica ci sono quelli legati al ciclo dei rifiuti, 8.000 reati accertati. Poi ci sono i delitti contro gli animali e la fauna selvatica, e quelli del ciclo del cemento, che sono cresciuti in un anno del 68%. La buona notizia è che sono crollati gli incendi boschivi appiccati dalle ecomafie e che la legge sugli ecoreati dà i suoi frutti con 1.108 delitti contestati. 88 sono i casi di disastro ambientale e più di 100 le inchieste di corruzione in materia ambientale. Nel 2018 è cresciuta anche l'agromafia con 44.795 reati contro il Made in Italy e un'impennata nei sequestri dell'agroalimentare, che sono cresciuti del 290%. Questi numeri li conosco. Allora, Antonio, ti lascio la postazione e prego. Sì, grazie. Grazie Francesco. Peraltro, diciamo, per me è un onore essere qui e anche a condividere questo, diciamo, questo spazio insieme a Marco Mizzolo, con la quale abbiamo fatto un sacco di cose insieme. Peraltro Marco è cavaliere al merito della Repubblica Italiana, volevo sottolineare, cavaliere al merito della Repubblica Italiana per la sua attività, diciamo, contro il caporalato, per la difesa dei diritti dei lavoratori in quel pezzo d'Italia che è la provincia di Latina. Quindi, insomma, Marco è veramente una, diciamo, una persona di altissimo profilo. Prego, figure, doveroso. Anche, diciamo, rispetto all'intervento che ci eravamo immaginati, io proverei un pochettino a invertire l'ordine dei fattori, perché, diciamo, anche Giulia ha accennato soprattutto all'interesse rispetto al tema dei rifiuti. Secondo me, prima di parlare di criminalità organizzata, di criminalità ambientale, di ecomafia, forse è meglio spendere due parole sul ciclo dei rifiuti, perché secondo me questo esercizio serve, è utile, perché molto spesso, a proposito di narrazione, quando si narra di rifiuti, lo diceva prima anche molto bene Francesco, c'è un'approssimazione che non fa bene soprattutto all'azione di denuncia e di contrasto all'illegalità nel ciclo dei rifiuti. Allora, intanto i rifiuti, la definizione di rifiuto è quella di una... classificato come, definito come rifiuto, qualsiasi sostanza, oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi. Quindi, cosa vuol dire? Questa è la definizione molto semplice di rifiuto. Quindi non è legata a una caratteristica intrinseca, merceologica della sostanza o dell'oggetto, ma è legata ad una scelta, ok? Quindi è soprattutto il frutto di una scelta che può essere operata a monte o a valle. Quindi i rifiuti non sono un'entità unica, quindi non sono un moloch, diciamo, indistinto. Molto spesso quando si parla di rifiuti si utilizza appunto il sostantivo si rifiuti, ma in realtà parliamo di diverse filiere, perché una cosa è parlare per esempio della filiera degli imballaggi, una cosa è parlare dei rifiuti organici, un'altra cosa è parlare dei rottami ferrosi, eccetera eccetera. Quindi ogni tipologia, ogni filiera ha una storia, ha delle specificità, e in ognuna di queste filiere si articolano poi dei processi di tipo criminale, che magari, se ci sarà il tempo, poi cercheremo, potremo anche andare ancora più a fondo. Rispetto alla classificazione, i rifiuti si distinguono in due grandi famiglie: rifiuti urbani e rifiuti speciali. Perché è importante questa classificazione? Perché i rifiuti urbani sono di competenza pubblica e quindi ne rispondono i comuni o i consorzi di comuni, quindi rientrano sotto il cappello pubblico e quindi ne risponde il sindaco, ok? Per capirci. Mentre i rifiuti speciali sono lasciati al libero mercato. Quindi la proporzione è che i rifiuti urbani rappresentano circa il 15%, massimo 20% del totale complessivo, mentre i rifiuti speciali più dell'80-85%. Mentre l'attenzione, a proposito di narrare, no, mentre l'attenzione soprattutto dell'opinione pubblica è verso i rifiuti urbani, che sono questa piccola fetta che interessano l'attività, soprattutto, diciamo, la gestione dei comuni, rispondono ai requisiti di mantenimento dell'igiene, del decoro urbano, rispetto ai rifiuti speciali vi è una, diciamo, pressoché totale disattenzione. Ecco, partiamo da questo. Rispetto a queste due grandi famiglie ci sono i rifiuti assimilati, che sono quei rifiuti che sono prodotti dalle utenze non domestiche, per esempio può essere un comune, può essere un teatro, può essere un cinema, può essere un parrucchiere, chiunque, che il comune decide per esempio di assimilare agli urbani, quindi una percentuale di rifiuti che può essere importante, che può variare. Per esempio la regione Emilia-Romagna è tra la regione d'Italia che fa politiche di assimilazione, cioè ingloba più rifiuti perché li gestisce all'interno del cappello pubblico. Questo è un elemento importante, perché se li gestisce il pubblico, diciamo, ci sono elementi di tracciabilità superiori rispetto al libero mercato, però rappresentano anche dei costi, eccetera eccetera eccetera. Per dirvi, insomma, quanto il tema sia molto, molto complesso. Quindi i rifiuti vanno classificati in questo modo, si articolano in determinate filiere. Per certi tipi di rifiuti la gestione viene demandata a un sistema che è quello, per esempio, della responsabilità estesa del produttore, per esempio per tutti gli imballaggi c'è questo principio della responsabilità estesa del produttore, per cui l'importatore o il produttore che immette un prodotto nel mercato, no? Paga un contributo ambientale che poi alla fine viene scaricato sul prezzo finale, per capirci, quindi alla fine è il consumatore che paga il contributo ambientale, che serve a raccogliere, a recuperare i rifiuti immessi nel mercato. Questo è un altro regime cosiddetto di responsabilità estesa del produttore, che vale nel nostro paese per quanto riguarda i rifiuti degli imballaggi, nel sistema dei rifiuti urbani, funziona nel sistema dei rifiuti di apparecchi elettriche ed elettroniche, quindi i cosiddetti RAE, oppure per pneumatici fuori uso. Quindi anche questo è un sistema di gestione dei rifiuti dove si articolano varie forme di illegalità. Quindi questo per dirvi che quando parliamo di rifiuti parliamo di un tema molto complesso. Ovviamente io l'ho detta così in maniera molto semplice, mentre ovviamente ciascuno di questi aspetti meriterebbe, diciamo, ben altra argomentazione. E rispetto a questa gestione, sai che bisogna allargarlo. Chiaramente la grande scommessa qual è? Quella che mi sono detto, ci siamo detti già da un po' di anni, cercare di capire meglio perché le mafie e le varie forme di criminalità ambientale hanno successo e dov'è che operano. Cioè l'obiettivo è non raccontare soltanto quanto sono forti i mafiosi, ma quanto siamo deboli noi e qual è lo spazio che gli abbiamo lasciato. Se dal mio punto di vista, diciamo, la grande scommessa è quella di puntare soprattutto sulla comprensione dei circuiti legali, quindi del quadro regolatore, di come vengono immessi, diciamo, vengono concepiti i modelli di governance, per capirci, per andare a capire effettivamente dove e perché le mafie o le varie forme di criminalità ambientale riescono a inserirsi. Quindi dal mio punto di vista, diciamo, lo sforzo che andrebbe fatto è uno sforzo che va puntato soprattutto sulla prevenzione. Puntare molto sulla prevenzione, quindi puntare molto a monte, significa chiaramente puntare molto sulla informazione e sulla comprensione di questi processi. So che il tema è molto noioso, quindi non vi voglio annoiare con questi temi, però insomma purtroppo è un esercizio che va fatto per cercare di capire come e perché, per esempio, le mafie sono forti. Le mafie sono state in questo settore, il settore dei rifiuti in particolare, molto forti, perché sono riuscite a inserirsi in uno spazio lasciato libero dalle classi dirigenti di questo paese. Il discorso è molto complesso, però sostanzialmente fino al 1997, fino al decreto Ronchi, per esempio, non c'era nel nostro paese una normativa adeguata che disciplinava la gestione di rifiuti, all'insegna dei principi, della sostenibilità. C'era un DPR, un decreto del Presidente della Repubblica dell'82, ma sostanzialmente non prevedeva sanzioni, quindi sostanzialmente inapplicato. Quindi pensate, fino al 1997 non c'era una normativa adeguata, per cui ciò ha lasciato grandissimi spazi alle varie forme di criminalità ambientale, compresa quella ecomafiosa, di potersi muovere sostituendo sostanzialmente i processi di regolazione formali. Pensate che, sempre parlando di norme, il primo delitto ambientale introdotto nel nostro paese è del 2001 ed è il delitto di traffico organizzato di rifiuti. Quindi pensate che fino al 2000, quindi fino a maggio del 2001, i trafficanti di rifiuti con i quali avevano già trasformato un pezzo delle province di Napoli e Caserta in quella che sarà richiamata la terra dei fuochi, mentre stavano commettendo quel disastro ambientale disumano, no? Non esistevano strumenti normativi di repressione per questo formine di crimine. Quindi parliamo del traffico organizzato di rifiuti, come ci raccontano sempre gli inquirenti che in questi anni ci hanno accompagnato in questo lavoro di analisi, ricerca e di racconto. Quando si trovavano dinanzi al trafficante di rifiuti non gli contestavano il codice penale, perché non esistevano delitti ambientali, ma gli contestavano il codice della strada, per capirci. Cioè, nel nostro paese, dobbiamo ricordarcelo questo, uno degli strumenti, uno degli escamotaggi che sono stati utilizzati dalle classi dirigenti per consentire, agevolare lo sviluppo economico, quindi la crescita, quindi l'industrializzazione del paese, è stato quello di scaricare tutti i costi sulle matrice ambientale, quindi sull'ambiente. Noi siamo diventati un paese industrializzato anche grazie alla sostanziale deregulation in campo ambientale, quindi non è un qualcosa che nasce per caso, ma è figlio di una scelta fatta a tavolino, consapevole della nostra classe dirigente, che ha scelto che il nostro paese doveva lanciarsi tra i grandi paesi industrializzati, si dovesse produrre, consumare, e che dei rifiuti non ci dovesse, sostanzialmente nessuno si dovesse prendere la briga. In questo vulnus ovviamente l'ecomafia ha trovato uno spazio straordinario, quindi si è mossa laddove l'istituzione, da dove anche il tessuto economico produttivo non è stato capace di intervenire, si sono mossi prima degli altri, prima diciamo di chi avrebbe dovuto muoversi. Ricordo che c'è anche una tara culturale, cioè parlare di rifiuti ancora oggi è abbastanza, diciamo, abbastanza sconcio come tema, non c'era nessuno, diciamo, tra le forze di polizia aveva voglia di investigare un trafficante di rifiuti, cioè non c'era questa consapevolezza, il settore economico non si badava ai rifiuti, insomma i rifiuti è sicuramente uno dei nostri scheletri nell'armadio, è un po' in qualche modo la nostra impronta sul luogo del delitto. Quindi in questo spazio l'ecomafia è riuscita a trovare un sistema per resistere. Quindi sostanzialmente l'ecomafia, in quanto diciamo espressione di clan che controllano i territori, riescono a offrire dei servizi principalmente alle aziende. Quindi solitamente offrono dei servizi a costi bassi e quindi cercano di mettere in contro domanda e offerta. Inizialmente l'ecomafia campana, che è quella più efferrata e che ha capito prima il business, sulla pelle, diciamo, gestendo rifiuti, si faceva riferimento un po' alla massoneria, in cui si riusciva a incrociare domanda e offerta, e quindi loro offrivano dei prezzi bassissimi alle imprese che, per smaltire a costi bassissimi i rifiuti, si rivolgevano a chi offriva in qualche modo di raccoglierli, di raccoglierli e poi smaltirli in maniera illecita. Quindi si sono mossi in questo terreno, si sono mossi inizialmente offrendo anche, diciamo, delle vie di fuga a crisi ambientali che civicamente si presentavano nelle grandi città italiane, perché il tema della gestione dei rifiuti urbani si pone soprattutto per le grandi città italiane. Per esempio la crisi degli anni 80 della gestione dei rifiuti a Milano fa sì, insomma, in qualche modo è la camorra che riesce a dare delle risposte, fino a quando capisce appunto che non è diciamo che i rifiuti urbani sono un pezzo una fetta molto piccola della torta, che il grande business invece è quello sui rifiuti speciali, e la camorra fa esattamente questo. Quindi smaltisce i rifiuti che producono le imprese, diciamo, del cosiddetto Made in Italy, che chiaramente i rifiuti non li produce la camorra, ovviamente, li produce ovviamente l'impresa. Quindi sono soggetti che offrono dei servizi, si sono mossi nella totale disattenzione da parte delle amministrazioni pubbliche e comunque del legislatore, sono dei facilitatori di interesse, mettono insieme chiaramente domande e offerte, riescono a risolvere ogni problema, hanno dalla loro la capacità di poter manovrare un capitale sociale enorme, oltre al fatto di godere di prestigio sociale nei territori dove loro imperversano. Conoscono il mercato e le sue regole, perché, diciamo, se è vero che molto spesso si muovono in settori non ad alto impatto tecnologico, e i rifiuti lo sono stati, oggi la situazione è molto diversa, e loro anche rispetto alle possibilità che la tecnologia offre di riciclare, quindi di recuperare materia, dimostrano di avere anche una capacità di sapersi in qualche modo mettere a passo con i tempi. Oggi i figli soprattutto dei più grandi trafficanti di rifiuti degli anni 90, che facevano i soldi, che hanno creato degli imperi nell'assenza di leggi, oggi gestiscono impianti all'avanguardia, perché sanno appunto che si possono fare tanti soldi gestendo ampie partite di rifiuti, rispettando le leggi fino a un certo punto. Si muovono ovviamente sia nei loro contesti territoriali dai quali provengono, ma si muovono soprattutto attraverso una dimensione che è sempre nazionale e internazionale. Sono solitamente a disposizione di gruppi economici spesso nuovi in crisi, dispongono di grandi capitali, quindi possono in qualche modo aiutare le imprese a risolvere momenti di esigenze di liquidità. E come dimostrano le indagini, tutto crimine infinito, e da lì e da giù, da quella lì poi in poi, sono soprattutto le imprese che si rivolgono ai clan per ottenere i loro servizi. Quindi diciamo stiamo assistendo a questo cambio di paradigma, non sono diciamo, le imprese cosiddette sane ad essere in qualche modo oggetto di estorsione, ma sono le imprese, sono gli imprenditori, anche con accento ovviamente del nord, a rivolgersi ai clan per avere i loro benefici. È evidente che le mafie non sono soltanto, diciamo, gli unici, l'ho detto anche prima, non sono gli unici responsabili dell'illegalità, comunque dei vari fenomeni criminali legati all'ambiente, si muovono insieme alle imprese, sono esse stesse imprese, quindi muovono e gestiscono imprese, società che sono iscritte alle camere di commercio, quindi hanno partita IVA, hanno le autorizzazioni alla gestione degli impianti. La cosa fondamentale è che loro devono gestire impianti e soprattutto movimentare i rifiuti. Sono straordinari e continuano ad essere straordinari nel movimentare i rifiuti, nella logistica. Da questo punto di vista, ancora una volta, i campani che sono sicuramente i clan di Stazione Campana sono quelli con più grande know-how dal punto di vista criminale, riescono a controllare soprattutto la logistica anche nei mercati ortofrutticoli, come Marco sa benissimo e chi vi dirà dopo, la capacità di trasporto, di utilizzo della logistica in forme di monopolio, perché un'altra caratteristica delle ecomafie è quella di creare dei monopoli laddove loro, diciamo, intervengono, quindi fa sì che loro sono capaci di movimentare sulle lunghe distanze anche rifiuti e prodotti agroalimentari. Questa è un'indagine di qualche mese fa in cui dimostra in qualche modo che l'ecomafia, come ho già detto in diverse forme, non è in qualche modo rappresentata da degli sfigati, ma sono imprese solitamente che dispongono di impianti e di capitali che si muovono nelle zone d'ombra, si muovono sia nel mercato legale che in quello illegale, perché una delle caratteristiche soprattutto che caratterizza l'ecomafia è quella che non ha necessariamente non si deve occupare solo del mercato nero, perché non traffica droga, non traffica esseri umani, ma movimenta, trasporta rifiuti, sapendo che è difficile verificare che il sistema, diciamo, della compliance, cioè ciò che riguarda la filiera, sia effettivamente svolta secondo le regole. Quindi siccome il confine molto spesso tra il lecito e l'illecito è molto labile, perché è difficile verificare volta per volta se effettivamente una partita di rifiuti è stata trattata come deve scrivere la legge o se risponde effettivamente a quel codice CER, perché è tutto un sistema di movimentazione di rifiuti che è un sistema di tipo di autocertificazione. Quindi non esiste possibilità di fare dei controlli esterni, questo è un elemento fondamentale. Le forze di polizia intervengono, ma intervengono solo solitamente quando c'è una notizia di reato e rispetto alle situazioni macroscopiche. Ma tutto ciò che accade a monte, sin dalla fase in cui i rifiuti vengono caratterizzati, in cui un imprenditore, quindi un produttore di rifiuti, stabilisce che tipo di rifiuto è, sono delle procedure di autocertificazione di cui ne rispondono loro, ma è difficile dimostrare che quanto caratterizzato non corrisponde al vero. Quindi loro sanno perfettamente quanto sia difficile che si riesca a dimostrare anche in sede processuale, per esempio, un carico di rifiuti entrando in un impianto, e piuttosto che subire trattamenti come prescrive la legge, i trattamenti vengono fatti soltanto sui formulari, sui documenti, mentre i rifiuti rimangono tal quali e vengono spacciati, per esempio, come materie prime seconde, come sottoprodotti o come materiali, insomma, da rivendere, quindi trasformano in maniera cartolare un costo in un ricavo. Quindi loro sono abili in tutte queste attività e i rifiuti sono, diciamo, uno dei territori abbastanza prediletti. Diceva benissimo, vedete qua col PDF è diventato nero, diceva benissimo Francesco prima, attenzione a non farne un alibi. Ecco, questo è fondamentale, è un aspetto fondamentale. Cioè, se l'ecomafia rappresenta una minaccia per il nostro paese, come dicevo prima, non devono diventare un alibi, perché non ci devono in qualche modo, non ci dobbiamo accontentare di sbattere in prima pagina l'ecomafioso o il mafioso di turno, perché il sistema molto spesso ha delle ramificazioni, come si diceva prima, fin dentro le imprese, fin dentro le istituzioni, fin dentro le istituzioni anche locali, e quindi molto spesso il rischio è che le mafie diventano un alibi per dimostrare, insomma, una lotta repressiva nei confronti di un fenomeno che è molto più complesso e che spesso ha la testa nei consigli di amministrazione di molte società. Quanto tempo mi è rimasto? Pochissimo. Vado a finire. Quindi è chiaro che dobbiamo spostare l'angolo di osservazione soprattutto a monte. Per questo bisogna conoscere i processi, le articolazioni, le filiere, perché se noi conosciamo come si muovono i rifiuti, riusciamo a capire anche dove loro si riescono a inserire, piuttosto che a valle. Più, diciamo, purtroppo il racconto, parliamo di narrare le mafie, il racconto che si fa soprattutto sulle mafie è un racconto molto spesso infarcito di aspetti fascinosi, no? Su questo dovremmo discutere a lungo, di come molto spesso le mafie vengono raccontate anche da molti giornalisti in maniera enfatica, anche per cercare un po' la parola d'effetto, il testo d'effetto, un po' romanzati, no? Il male è più affascinante rispetto al bene, fa più audience un mafioso piuttosto che un padre di famiglia che si alza alle 5 e prende un autobus, no? Quindi c'è anche un modo come vengono raccontati i mafiosi che a me in qualche modo disgusta. Le mafie sono quella montagna di merda di cui parlava Peppino in passato, vanno condannati con forza, però dobbiamo essere capaci allo stesso tempo di non fermarci all'ala militare, all'ultimo elemento che è quello che ci avvalle, cioè il momento in cui i rifiuti vengono smaltiti, perché bisogna spostare l'angolo di osservazione anche a monte, dicevo prima, a quando, diciamo, vengono caratterizzati, a come si articolano le procedure, perché dalla mia esperienza vi posso dire che la gran parte delle illegalità, le gran parte delle truffe avvengono prima ancora che i mafiosi se ne accorgano. Questa è una slide che ho messo perché, diciamo, proprio oggi mi è arrivata, leggevo di questo articolo sulla ciociaria di questo sostituto procuratore, non so se tu Marco l'avevi letto questo articolo, in cui il sostituto procuratore fa un intervento nelle scuole per parlare di mafia e dice sostanzialmente che le mafie, spiegando ai ragazzi le mafie cosa sono, dice che le mafie hanno diverse ragioni, tra cui, tra le ragioni, secondo questo procuratore, c'è quello dell'analfabetismo delle classi del sud, analfabetismo, mancanza di infrastrutture e di mezzi di comunicazione. Cioè nel 2019 un sostituto procuratore della Repubblica, peraltro di Monza, peraltro infatti lo vorrei incontrare, sostiene da dei giovani, cioè una tira fuori una certa sociologia d'accatto, no, degli anni 50, che ha giustificato un certo modo di concepire mafia, anzi pensando che fossero, diciamo, figli del sottosviluppo, di un sud, diciamo, sottosviluppato, che è veramente qualcosa contro il quale bisogna assolutamente lottare. Le mafie non sono frutto del sottosviluppo, non sono frutto dell'arretratezza, sono causa dell'arretratezza. Cioè le mafie causano il sottosviluppo, causano l'arretratezza, non sono il prodotto di quello, perché le mafie, quelle vere, sono nate nella Conca d'Oro, sono nate a Palermo, ogni territorio ha le sue mafie, sono figlio di un certo modo di concepire il potere, soprattutto economico, che diventa politico. I capi mafia sono sempre, a parte, diciamo, gli stragisti di Corleone, gli ignoranti di Toto Perina e Provenzano, però i capi mafia sono sempre stati dottori, sono sempre stati medici, radiologi, sono avvocati, sono professionisti. Quindi, diciamo, ancora oggi purtroppo nel 2019 dobbiamo fare i conti anche con un certo modo di rappresentare le mafie, che se arriva soprattutto da un sostituto procuratore ci convince del fatto che ancora c'è tanto da fare, probabilmente anche un'iniziativa di questa può servire a questo. Mi fermo qua per non farla troppo lunga e poi magari ritorniamo. Grazie Antonio, io colgo alcuni spunti dalle cose che ha detto Antonio, e in particolare Il quadro che lui ha dato quando descrive come le mafie stanno su quel tipo di mercato, secondo me è un quadro interpretativo estremamente utile, pur in modo sintetico ovviamente, per capire come stanno le mafie sui territori e su altri mercati anche, perché quando lui dice che si pongono come soggetti che offrono servizi, io me li sono segnati, spero, come facilitatori tra domanda e offerta. Soggetti che hanno capitale sociale e creano capitale sociale dove vanno, che hanno risorse, capitali, liquidità in un momento di crisi di liquidità, che vivono in un quadro di disattenzione del legislatore e delle istituzioni. Questa è la storia delle mafie, lui citava questo esempio, ma molto più indietro nel tempo è famoso il caso di Guido Lo Schiavo, che era procuratore, poi è stato giudice, poi è stato in Corte di Cassazione, che presenzia ai funerali del fu Bosca, Loggero Vizzini, quello che fa arrivare gli alleati in Sicilia e che scrive su una rivista specializzata per avvocati e giudici un elogio di Loggero Vizzini, scrivendo che la mafia non è quello che si racconta, che una cosa è bella, che fu cosa onorevole, quelle erano le istituzioni della nostra Repubblica, quindi sono un racconto, e il fatto che siano le imprese a rivolgersi a loro. Guardate che questi 4-5 punti sono una chiave di volta, sono una cartina di tornasole importante per leggere come sono oggi le mafie. E gli altri elementi che mi vengono in mente, che mi fanno ricordare alcune cose che lui diceva della disattenzione, del bisogno di comprendere, quando lui dice i rifiuti urbani sono il 15% del totale, no? E ci dice che la gran parte sono il resto, riprende cose che in parte sappiamo da tempo. Nel 1989, io ricordo, correggimi se sbaglio Antonio, un ministro denuncia che in Italia nel ciclo dei rifiuti non urbani ma industriali si perde il 25% dei rifiuti. Il 25% dei rifiuti che arrivano dalle grandi imprese. Parliamo di Porto Marghera, parliamo di Ilva, parliamo di imprese che coprono il 3% del territorio nazionale. Quindi è dall'89 che, come dire, c'è una certa consapevolezza da questo punto di vista. Allora, io proverei a prendere questi aspetti, metterli tra parentesi e fare un passaggio con Marco, che curerei anche questo attraverso un brevissimo video che quando lo vedrete direte ma che c'entra sta roba qua, ma poi ve lo spiego. Ci sentite qualcosa? No. No, sentite più lui. Ma non è fondamentale sentire il testo. Chi è questa? Questa è Pupetta Maresca. A qualcuno dice qualcosa? Parliamo del dopoguerra, di una figura che nel dopoguerra ha 10 anni di grande celebrità. E questa celebrità c'entra col racconto romanzato delle mafie di cui parlava Antonio, perché Pupetta Maresca fa questo film molto carina dopo essere stata in carcere. E Pupetta Maresca sta in carcere perché ha partecipato all'omicidio di tale Esposito, e tale Esposito aveva a sua volta ucciso suo marito. Suo marito era Pascalone Enola. Siamo a Napoli, immediatamente fuori Napoli. E che cosa faceva Pascalone Enola? Pascalone Enola era chiamato da tutti il presidente dei prezzi. Questo era Pascalone Enola. Pascalone Enola era quel soggetto che nel primo dopoguerra gestiva, sostanzialmente con una ricchezza enorme per il periodo, tutta la filiera della produzione, della rivendita, fino al controllo dei prezzi, cioè di a quanto venivano venduti tutti i prodotti ortofrutticoli che venivano dalla zona intorno a Napoli, dall'Agro Nocerino e da quella parte lì. Perché è interessante? Perché quando parliamo di agromafie, come diceva Antonio, dobbiamo avere consapevolezza che siamo di fronte a un fenomeno che è un fenomeno che ha una storia e che come tale presenta caratteri di forte innovazione. Quella di cui parliamo adesso non è quella di allora, però presenta anche caratteri di continuità nel tempo. Le mafie l'hanno sempre fatto, il regolatore dei prezzi. Che cos'è se non un facilitatore fra domanda e offerta? Che cos'è se non qualcuno che si pone allora come oggi o oggi come allora fra la produzione legale e quella illegale, fra i circuiti di vendita legali e illegali, fra tutti i circuiti di trasporto? La mafia è sempre stata insieme, non è una novità di questo tempo. Noi ce ne stupiamo quando si legge del processo a Bologna, eccetera, ma come, ci sono i commercialisti, come, cosa sono? Le mafie non sono altro, è per questo che non devono diventare un alibi, l'agromafia e le ecomafie, come se ci fossero le aziende e poi una roba a parte, un mondo a parte in cui si muovono le mafie. Non è così. Allora, io chiederei a Marco di aiutarci a entrare di più nel tema delle ecomafie, che è un tema, io mi sono segnato due punti che ha, insomma, elementi di rilevanza non indifferenti. Tenete conto che nel solo 2018 sono 561 i soggetti denunciati per caporalato, sono 17,6 milioni di chili di alimenti sequestrati per un valore di 34 milioni di euro. È stata smantellata un'organizzazione che operava fra Campania, Puglia, Sicilia e Emilia-Romagna, che importava zucchero dalla Croazia e dalle Mauritius e teneva insieme più organizzazioni criminali e attraverso un ciclo di fatturazione falsa rivendeva in nero, rivendeva sul mercato nero quello stesso zucchero a produttori di vino di tutto il paese che alteravano la composizione del vino. Quindi stiamo parlando di una cosa che c'entra con la nostra storia, ma c'entra con la nostra storia ancora una volta su tutto l'arco del paese, perché questa è una storia che incide sulle abitudini alimentari. Pensate il valore del Made in Italy come marchio sul mercato alimentare. C'è Fico qua, come dire, insomma, che valore ha quella roba lì e quale può essere l'interesse delle organizzazioni criminali dalla produzione fino alla vendita al dettaglio ad infilarsi in tutto il circuito su scala nazionale e internazionale, perché da sempre Cosa Nostra traffica con gli Stati Uniti, l'Andrangheta lo stesso, cioè trasportavano l'eroina nelle casse d'arancia, hanno sempre trasportato agroalimentare. Non è una grande novità che siano capaci di gestire traffici da una parte all'altra dell'oceano. Marco, scusa se sono andato lungo, a te l'intervento. Grazie mille davvero per l'invito, per la vostra presenza, anche per le belle parole di Antonio, che so che sono sentite, perché davvero abbiamo attraversato un pezzo di vita insieme affrontando il tema delle mafie, delle ecomafie, delle agromafie insieme, come dire, cercando di analizzare innanzitutto fenomeni che sono certamente complessi, ed è la complessità uno degli elementi che caratterizzano questo fenomeno, che però io voglio provare a descrivere a partire dalla mia esperienza, perché in qualche modo descrive non soltanto, come dire, un modo per fare indagine e inchiesta, ma anche per indagare, io dico sempre, un modello, un sistema, le modalità attraverso le quali funziona un sistema economico, imprenditoriale, ma poi vedremo anche sociale e per questo anche politico. Perché il fenomeno che noi stiamo indagando non può funzionare senza una serie di diramazioni fondamentali, quindi di collegamenti con pezzi della nostra società, con pezzi delle libere professioni, con pezzi della politica, con pezzi chiaramente dell'economia. Io vengo dalla provincia di Latina, che è un territorio che almeno fino a qualche anno fa veniva considerato libero dalle mafie. Ogni tanto si incontrano nella narrazione pubblica territori che vengono definiti liberi dalle mafie. Poi indagando si scopre che in realtà in quei territori ci sono stati omicidi strani. In quel territorio nel 1994 viene ucciso un prete perché denuncia un traffico internazionale di rifiuti che ha ad oggetto la discarica di Borgo Montello. Don Cesare Boschina aveva 81 anni e viene trovato incaprettato nella sua canonica. E questo perché per l'appunto aveva dato spazio a un comitato locale che iniziava a denunciare anomalie importanti che riguardavano quel territorio. E guarda caso scopriamo che intorno a quel territorio avevano residenza, per esempio, gli Schiavoni, che chiaramente riescono a mettere le loro mani su quella discarica grazie a relazioni con la Regione Lazio di allora, proprietaria di maggioranza di quei terreni. E quindi un territorio che in realtà non è mai stato libero dal fenomeno, che ha sempre avuto ospitato soggetti appartenenti a clan o organizzazioni mafiose diverse, che hanno fatto, nel caso specifico dell'agricoltura, in agricoltura enormi passi purtroppo in avanti, non soltanto acquistando terreni per farne motivo di riciclaggio del denaro, ma per diventare in qualche modo imprenditori, per costruire la propria figura pubblica attraverso un percorso però criminale. Io penso per esempio alle molte aziende che sono state sequestrate a causa per l'appunto dei legami diretti che questi avevano e purtroppo in alcuni casi hanno anche con le più importanti organizzazioni mafiose, all'interno delle quali però, come dire, non solo queste venivano usate come attività di riciclaggio, ma o processo di sofisticazione della produzione ortofrutticola, ma anche come grande scatola all'interno della quale venivano impiegati lavoratori, uomini, donne, spesso migranti in condizioni di grave sfruttamento, che però per circa 25 anni erano sostanzialmente lontane dai riflettori, dalle analisi, dalle capacità di indagini, di inchiesta dei giornalisti del mondo universitario. Io per l'appunto decisi di infiltrarmi come bracciante agricolo lavorando sotto caporale indiano e sotto padrone italiano, ed utilizzo con cognizione di causa questo termine perché è estremamente significativo. Per 3 mesi ho osservato le modalità attraverso le quali alcuni padroni hanno non soltanto reclutato e impiegato, ma attraverso questa genere di attività criminale condizionato la politica dei prezzi, le attività di trasformazione, di distribuzione, di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli provenienti da un territorio che è centrale dentro l'economia agraria di questo paese. E dico centrale, per esempio, ricordandovi che in quel territorio trova residenza il mercato ortofrutticolo di Fondi. Il mercato ortofrutticolo di Fondi è il quarto mercato ortofrutticolo più grande d'Europa ed il secondo più grande d'Italia. Parliamo di una realtà imprenditoriale straordinariamente rilevante, capace di movimentare centinaia di camion e quindi il trasporto su gomma dell'ortofrutta prodotta in quel territorio, facendola arrivare non solo sulle nostre tavole, ma sui mercati di tutta Europa. Ebbene, non le indagini di un semplice sociologo o di un giornalista, ma sentenze passate in giudicato, avendo ad oggetto per esempio il processo alla Paganese, hanno riconosciuto la responsabilità di 3 soggetti, che è interessante analizzare nella loro dinamica, 3 soggetti particolari, due di questi si ritrovavano proprio davanti al mercato ortofrutticolo di Fondi. Faccio presente che il comune di Fondi è l'unica amministrazione comunale a non essere stata sciolta per mafia, nonostante due dichiarazioni pubbliche dell'allora ministro dell'interno Maroni, una relazione di 500 pagine dell'allora prefetto straordinario, bravissimo, Frattasi, attualmente è a capo dell'Agenzia per i Beni Confiscati, 2 dichiarazioni pubbliche, vi dicevo, dell'allora ministro dell'interno, che palesavano attraverso documentazione appurata una relazione diretta di quell'amministrazione, per esempio, con la 'Ndrangheta o con la Camorra. E badate, la commissione di accesso al comune di Fondi, che chiaramente riguardava anche la capacità del mercato ortofrutticolo di alcuni soggetti che poi vi dirò di condizionare l'azione politica di quell'amministrazione, i membri della commissione di accesso furono chiamati dall'allora presidente della provincia di Latina pezzi deviati dello Stato. E parliamo di funzionari pubblici di altissimo livello. Ebbene, quindi parliamo di un contesto di questa natura. Quei 2 soggetti che si ritrovavano davanti al mercato ortofrutticolo di Fondi erano Gaetano Rina, il fratello di Totò Rina, l'altro era il figlio di Sandokan Schiavone, fondatore dei Casalesi, che si ritrovavano con l'autorizzazione dell'Andrina Tripodo, che si era già radicata nel territorio in maniera piuttosto importante, e questi gestivano la logistica, cioè il trasporto dell'ortofrutta prodotta per l'appunto in provincia di Latina, che arrivava sui mercati di tutta Europa. Il punto era non solo questo, ma i camion quando tornavano, non tornavano vuoti, apparentemente vuoti. In realtà nella sottopancia trasportavano armi pesanti e droga. Chiaramente armi pesanti e droga che servivano per foraggiare un mercato criminale, un sistema criminale piuttosto ampio. Io ricordo che alcuni esponenti politici eletti che hanno fatto straordinarie carriere politiche in quel territorio sono stati presenti in commissione antimafia, dove io sono stato ascoltato più volte, la prima volta addirittura in audizioni plenaria con la presenza mia, accanto a me, dell'allora presidente, l'onorevole Rosi Bindi. Erano tutti presenti, deputati e senatori, tranne due senatori eletti proprio in provincia di Latina, appartenenti a schieramenti opposti diversi, che mi hanno fatto sapere non erano interessati ad affrontare il tema delle agromafie. Inquietante, se voi ci pensate, perché era stata chiaramente un'esposizione straordinaria, ma soprattutto in quella sede, che era la sede opportuna, utile per affrontare questo genere di questioni, arrivavano delle persone che portavano nomi, cognomi, facevano, come dire, analisi rispetto a processi molto puntuali, descrivevano situazioni e testimonianze rispetto ad un fenomeno che è particolarmente ampio, perché durante questa mia esperienza, come dire, una cosa che sicuramente è stata superata è l'idea di confine, di territorio. Ma da Dio immaginavo che per l'appunto questo fenomeno dello sfruttamento delle agromafie, in particolar modo del caporalato, fosse circoscritto ad alcune aree del paese. In realtà l'ultimo dato dell'Osservatorio Pace di Rizzotto ci dice 450.000 persone ogni anno vivono condizioni di sfruttamento lavorativo e di disagio abitativo, solo in agricoltura, e di questi circa 130.000 vivono condizioni di grave sfruttamento lavorativo, che significa, per riflessione internazionale, condizioni paraschiavistiche. MSF, Medici Senza Frontiere, Amnesty International con due dossier, MEDO, Medici per i Diritti Umani, molte università italiane e straniere affermano che nel nostro territorio vi è una violazione sistematica e quotidiana dei diritti umani. A luglio di quest'anno le Nazioni Unite a Ginevra, l'Alto Commissariato contro le nuove forme di schiavitù, presenta uno studio durato 3 anni, al quale ho avuto la fortuna di partecipare, che ha riconosciuto nel mondo alcuni paesi in cui la schiavitù di fatto ancora esiste, forme così gravi per l'appunto da definire uno stato di subordinazione totale della persona nei confronti di altre persone, in alcuni casi criminali riconosciuti, in altri casi criminali non riconosciuti ma che adottano quella metodologia, perché questa è un'altra cosa interessante sulla quale riflettere. Tra questi paesi c'è per l'appunto l'Italia. Il business complessivo, secondo l'ultimo rapporto agromafia di Eurispes, è complessivamente intorno ai 25 miliardi di euro. Attualmente noi stiamo parlando in questo paese di una finanziaria che si gira intorno ai 30 miliardi di euro. Il business delle agromafie è complessivamente inteso intorno ai 25 miliardi di euro. La mia domanda è sempre stata: è mai possibile che questi sono denari contanti che restano semplicemente nelle tasche, nei conti correnti di criminali, mafiosi, padroni, sfruttatori, punto? Davvero possiamo immaginare che questa emorragia di denaro, come dire, esca dall'economia legale ed entri semplicemente in quella criminale e lì resta allo scopo di consentire a queste persone di continuare il loro business? Evidentemente non è così. Nella mia esperienza, ormai è a 12 anni, sono 12 anni che seguo questo genere di caso, abbiamo trovato una serie di soggetti straordinariamente interessanti ed importanti che costituiscono forse ancora più del padrone criminale, del mafioso, del trafficante, del caporale, come dire, gli ingranaggi fondamentali che permettono a questo sistema di funzionare. E penso ad un'infinità di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, consulenti agrari, notai, che svolgono le loro funzioni in collaborazione con trafficanti, con caporali, con datori di lavoro criminali, con soggetti appartenenti appunto alle più importanti organizzazioni mafiose di questo paese, prestando la loro professionalità allo scopo di mascherare e di nascondere tutto questo. Io una cosa che mi sono sempre domandato, ho indagato la comunità indiana in provincia di Latina. La comunità indiana conta attualmente circa 30.000 persone. Di queste, grosso modo, il 18-20% sono impiegati in agricoltura. Da 30 anni. La mia domanda è: possibile che degli imprenditori, per quanto criminali, riescono a gestire un sistema di tratta internazionale di sfruttamento lavorativo e poi di commercializzazione di quei prodotti in maniera autonoma, senza la collaborazione, senza la capacità di tessere relazioni con altri soggetti? E davvero pensiamo che questa capacità sia delegabile soltanto alla relazione che questi hanno con la politica, ma non esiste invece una sorta di consenso implicito anche nel territorio, di tante persone, di tanti liberi professionisti che per l'appunto agevolano questo sistema? per un bracciante indiano in provincia di Latina rinnovare la propria carta d'identità, sapete quanto costa? 800 euro. Una patente auto costa oltre 4.000 euro. Tutto questo perché vi è tra la libertà di quel soggetto, di quella persona, la capacità di interfacciarsi con gli uffici pubblici, con le amministrazioni locali, sempre soggetti altri, che badate che non sono affatto di poco conto, non è soltanto il caporale, ma per esempio anche tanti impiegati pubblici, tanti per l'appunto liberi professionisti che sulle schiene piegate di queste persone hanno costruito un business straordinario. Allora, fenomeni di questa natura chiaramente mi hanno fatto immaginare che questo sistema non è collocabile o circoscrivibile all'interno di un territorio specifico. Ed infatti ci siamo allargati e quindi abbiamo trovato certo caporalato a Rosarno, a Rossano, a Vittoria in Sicilia, a Castelvolturno, ma anche nel Grossetano, ma anche nelle campagne bresciane, ma anche e quindi in Lombardia o in Veneto, addirittura all'estero, nella filiera della macellazione in Emilia-Romagna. All'estero significa per esempio in Romania, in Grecia, in Portogallo, in Spagna, ma anche in Inghilterra, in Francia, in Germania, negli Stati Uniti. E questo ha dato l'idea di un fenomeno che ormai era diventato in qualche modo sistema, cioè, come dire, aveva assunto una dimensione, una complessità tale da non condizionare il sistema agroindustriale, ma di entrare in esso e farne parte in maniera per l'appunto sistemica, al punto da riuscire a costruire anche una rete commerciale che dal singolo prodotto, per esempio Pontino o di Castelvetrano, tanto per dire un paese significativo per chi si occupa di questo tema, riusciva a portarlo per l'appunto sulle grandi boutique enogastronomiche degli Stati Uniti. Ma questo vale anche per l'appunto per alcuni territori del nord del paese. Io vi voglio citare questo caso perché per me è particolarmente significativo e rompe un po' una serie di stereotipi di luoghi comuni su questo tema. E riguarda una delle imprese vitivinicole più grandi d'Italia, più importanti d'Italia, quindi una delle più importanti d'Europa, rappresentativa del Made in Italy, è presente per l'appunto nelle campagne bresciane. Il prodotto più importante di questa azienda vitivinicola è venduta nelle boutique enogastronomiche degli Stati Uniti a 600 euro la bottiglia. Questo significa che la catena del valore è estremamente elevata. Noi non parliamo della passata di pomodoro che acquistiamo sotto costo a 30 centesimi al supermercato, parliamo di una bottiglia di vino pregiato che rappresenta il Made in Italy, quindi che ha anche un valore, come dire, non solo commerciale ma anche politico in tal senso, il cui costo per l'appunto è 600 euro, il che significa che come minimo 300 euro rappresentato dal plusvalore che resta nelle tasche per l'appunto del datore di lavoro. Ebbene, all'interno di questa azienda ogni anno un giornalista ha detto spariscono, significa muoiono di sfruttamento lavorativo e di caporalato lavoratori, braccianti, soprattutto bulgari ed anche indiani. All'interno di quelle aziende per il sindacato non è possibile entrare. Io stesso sono stato riconosciuto come una persona poco gradita perché cercavo di costruire relazioni con lavoratori che lì venivano impiegati 14 ore al giorno, tutti i giorni della settimana, in condizioni di così grave sfruttamento, in alcuni casi da vivere condizioni per l'appunto di sofferenza anche organica. Allora, voi capite che questa dimensione è particolarmente inquietante. Se addirittura noi riusciamo a commercializzare e a vendere come rappresentativi della nostra produzione beni che sono macchiati dello sfruttamento, del sangue e della fatica di così tante persone. In questo processo chiaramente noi lo abbiamo seguito molto da vicino. Ed è l'invito che faccio in qualche modo a voi. Provate a mettervi nei panni di un bracciante, in questo caso indiano, ma potrebbe essere nigeriano, di una donna rumena che lavora a Vittoria, e a lavorare 14 ore al giorno nelle campagne in condizioni di grave sfruttamento lavorativo, sotto una serra, con un caporale che ti garantisce soltanto due pause da 10 minuti nell'arco di quelle 14 ore, obbligato a raccogliere per esempio i ravanelli, che hanno valore commerciale molto basso. E vi faccio il caso effettivo, reale, che abbiamo raccolto con riferimento ad un'azienda di proprietà non di un mafioso, di un casalese o di un andranghetista, ma di proprietà di imprenditori olandesi. Olanda, patria dei diritti umani, grande riferimento per ciò che riguarda la tutela ambientale. Ebbene, un'azienda, una delle più importanti in Europa, presente nel Pontino, obbligava lavoratori indiani a lavorare 14 ore al giorno. giorno, poi garantendomi un solo giorno di pausa al mese, in quel giorno di pausa per dare, come dire, per restituire al territorio un certo tipo di idea dell'azienda stessa, obbligava i lavoratori stessi a partecipare a dei tornei di calcio, perché questo dava un po' l'idea di una convivialità, dell'assenza di conflitti, eccetera. I braccianti erano obbligati a lavorare per l'appunto 14 ore al giorno, chinati a mezzo metro da terra, camminando in ginocchio, venivano retribuiti per raccogliere 150 mazzetti da 15 di ravanelli. 150 mazzetti da 15 di ravanelli significa che ne raccogli 30 di ravanelli, 15 li butti perché non corrispondono al format che ti viene richiesto dal mercato, quindi non hanno quella forma, quel colore, e questo lavoro non ti viene pagato. Raccogli 15, lo fai per 150 volte per 3 euro. Ebbene, voi capite che questa azienda, in mano ad un imprenditore, ad una serie di imprenditori olandesi presenti nel Pontino, attraverso questo genere di sfruttamento, hanno condizionato a tal punto la politica dei prezzi da fare essa stessa il prezzo dei ravanelli a livello europeo. Il fatturato di questa azienda attualmente è di 25 milioni di euro l'anno. Quindi parliamo di un sistema agrobusiness, di agrobusiness particolarmente rilevante, e commercializzano questi prodotti sui mercati tedeschi, olandesi, inglesi e addirittura anche russi. Allora vi dicevo, com'è possibile per un bracciante indiano reggere queste fatiche? Proviamo ad indossare proprio quelle vesti, quei panni. Come si fanno a reggere questo genere di stress psicofisico così a lungo da restare in qualche modo alle dipendenze di quel padrone per 2 anni, 3 anni, 5 anni? Ve lo dico io, grazie per l'appunto ad un rapporto orizzontale che noi nel corso del tempo abbiamo costruito con quei lavoratori, appunto tale da essere riconosciuti come fratelli di sangue, sono obbligati ad assumere sostanze dopanti, e significa soprattutto metanfetamine, oppio e antispastici. Lo abbiamo denunciato nel 2014 con un dossier doparsi per lavorare come schiavi. I circuiti di queste tre sostanze dopanti sono diversi. L'oppio è un circuito internazionale molto particolare e consiste nell'assunzione di semi estratti dal bulbo di papavero essiccato, che è ciò che resta alla fine dell'estrazione dal bulbo di papavero dell'eroina. Le metanfetamine sono prodotti chimici elaborati in laboratori della camorra, e gli antispastici sono il frutto di medicinali che vengono generalmente venduti sotto banco ancora una volta dalla camorra, che poi li portano per l'appunto attraverso intermediari nelle aziende agricole, venduti questi ai braccianti agricoli. Ebbene, nel corso del tempo lo sfruttamento lavorativo, le agromafie, questo genere di attività legata ad attività imprenditoriali di estrema importanza, che cosa ha generato? Nell'indifferenza di molti. Guardate che io parlo di indifferenza strumentale che ha riguardato tanti miei concittadini, ma chiaramente anche un livello istituzionale piuttosto importante. E faccio questa parentesi perché una delle mie prime uscite pubbliche, appena, come dire, osservato il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, delle agromafie, della relazione di tutto questo con il commercio anche di carattere europeo, fu di andare a parlare con il prefetto di Latina di allora, il quale mi disse, dopo avermi ascoltato, disse, ve lo cito testualmente, caro Mizzolo, noi gli indiani li vediamo soltanto nei film di John Wayne, che è un modo certamente sprezzante, no? È anche abbastanza arrogante nel momento in cui gli viene raccontato e detto da un prefetto, ma nel contempo, esattamente come quei parlamentari che in commissione parlamentare antimafia non si presentarono, è un modo anche per dirti, noi di questo tema non ci occupiamo. Non ce ne vogliamo occupare. E mi sono sempre domandato perché un prefetto decide di non occuparsi di questo tema, semplicemente perché non vuole dare fastidio ad una serie di imprenditori, magari criminali. È semplicemente questo? No, perché le agromafie sono un grande strumento di costruzione e di gestione del consenso, non solo di interessi economici. E quindi di consenso che diventa la base, l'elemento centrale per la costruzione di sistemi di potere che permettono ad alcune persone di fare carriere politiche straordinarie e di condizionare appunto non soltanto la produzione normativa, ma prassi, procedure ed informazioni da permettere il nascondimento di questo fenomeno per oltre 30 anni. E nel contempo agevolare quel sistema di business che è sempre a metà tra l'illegale e l'illegale, che nel contempo foraggia quei sistemi criminali che sono anche di natura politica, perché dentro quelle aziende sono state per anni organizzate straordinarie campagne elettorali da questi stessi soggetti. Allora, la costruzione del consenso è davvero uno degli elementi centrali che poi ci consente di spiegare perché per 30 anni in quel territorio di questo tema non se ne è parlato, non se ne è voluto parlare. Perché per 30 anni, come dire, venditori, commercianti, piccoli imprenditori hanno deciso di guardare da un'altra parte anche quando era conveniente loro anche economicamente denunciare il tutto, perché per l'appunto quello che tu dicevi, la costruzione del sistema dei prezzi è la costruzione di un sistema che a volte va a svantaggio anche di quell'imprenditore onesto che invece cerca di quadrare il proprio bilancio imprenditoriale mensile, perché spesso sono prezzi che vengono imposti dalla grande distribuzione organizzata, da un sistema di relazioni ancora una volta governati dai criminali. Pensate che il commercio di cocomeri in provincia di Latina, la provincia di Latina è la più grande provincia che produce cocomeri a livello nazionale, è in mano ad un imprenditore che ha residenza in un piccolo comune, Cori, che è di origine campana, il quale mi ha detto esplicitamente durante un incontro: qui il prezzo lo faccio io, lo faccio a livello italiano e chi mi contesta finisce sottoterra. Lui è di origine, è originario di Nola. Pascalone. Allora voi capite che questo tipo di situazione costruisce sistema criminale mafioso. Gran parte degli imprenditori agricoli che sfruttano, che riducono in schiavitù braccianti indiani, non provengono da quelli che sono nel puntino, non provengono dalla Campania, dalla Calabria o dalla Sicilia, ma molti provengono dal Veneto, dall'Emilia Romagna, e hanno però replicato un modello di comportamenti, di interessi, di modalità di agire che sono pienamente mafiose. Non c'è bisogno dell'affiliazione diretta per agire in maniera mafiosa. Si può adottare quel comportamento, quella modalità di entrare in un sistema di interessi anche se si parla con accento veneto, se si interagisce con mercati che vengono considerati puliti ed esenti dal condizionamento mafioso, e anche se si vota Lega, no, questo è un errore, perché in realtà da noi il rapporto con questo genere di politica è un rapporto criminale che sta emergendo da tutta una serie di inchieste estremamente interessanti. Allora, mi sono anche domandato, poi magari questo può essere oggetto della riflessione successiva, che cosa fare? La domanda che mi sono sempre fatto è: noi possiamo limitarci ad analizzare questo fenomeno e a farne il dossier, l'inchiesta, eccetera, o a raccontarlo e quindi a fare il reportage giornalistico, appunto, anche in termini di proprio rapporto etico con la questione? Io durante la mia esperienza ho trovato ragazzi di 23 anni, avevano forse un paio di pantaloni e due camicie, reclusi dentro gabbiotti 4 metri per 4, senza luce, acqua e gas, chiusi dall'esterno con un lucchetto che la mattina veniva riaperto da un imprenditore romano, imprenditore agricolo romano, per farli lavorare nella propria azienda agricola, e poi quel lucchetto veniva chiuso la sera stessa. Riduzione in schiavitù. Quindi dinanzi a tutto questo è sufficiente il rapporto, è sufficiente l'analisi? Io la risposta che mi sono dato è no. È necessario mettere in campo una strategia, è necessario mettere in campo delle risposte adeguate che non possono essere individuali ma collettive, che devono essere fondate sulla destrutturazione anche di una certa narrazione, a partire da quella imposta dal padrone. Nel Pontino è il datore di lavoro che pretende dai lavoratori indiani di essere chiamato padrone, e pretende da parte di questi, quando lui si rivolge a loro, che questi facciano tre passi indietro ed abbassino la testa. Alcuni lavoratori indiani sono obbligati a togliersi il turbante, che è un elemento di identità importante, oltre che religioso, perché per lavorare in quell'azienda i tuoi tratti identitari devono venire meno, così da agevolare il processo, il passaggio da te come persona a te come strumento, perché questo passaggio ti rende più fragile e quindi più facilmente ricattabile, e quindi più facilmente accetti questo genere di situazioni anche all'interno di aziende che hanno una dimensione europea come quella che vi ho raccontato. Allora, a che fare è stata la mia domanda fondamentale, al di là del fatto che è una domanda che ha anche una certa rilevanza storica, ma proprio che cosa mettiamo in campo per? Che cosa ci ha consentito, per esempio, il 18 aprile del 2016 di portare oltre 4.000 braccianti in Piazza Latina, rompendo in qualche modo quel sistema che li obbligava a vivere a condizioni di segregazione, in una piazza che si chiama Piazza della Libertà sotto la prefettura, quindi nel luogo in cui io incontrai quel prefetto che mi disse: noi gli indiani li vediamo soltanto nei film di John Wayne, permettendo a queste persone per la prima volta di raccontare ciò che per 20 anni hanno vissuto dentro quelle aziende, che hanno osservato, pur non avendo mai avuto il diritto di raccontare in prima persona. Che cosa ci ha permesso il 21 ottobre di quest'anno di portarne altre 3.000 in piazza? Che cosa ci ha permesso di aprire oltre 150 processi contro caporali, criminali, mafiosi, trafficanti di esseri umani? E in tutti questi processi, quei braccianti costituirsi parte civile, al punto da trasformare l'aula del Tribunale di Latina non soltanto in un'aula giudiziaria, ma in qualche modo anche in un'aula di formazione civile. Perché vi assicuro che ascoltare la testimonianza di un bracciante che per la prima volta punta il dito nei confronti del padrone, raccontando allo Stato come lui è stato trattato per oltre 15 o 20 anni, per esempio dal punto di vista economico, essere stato retribuito 2 euro l'ora a fronte dei 9 euro lordi previsti dal contratto di lavoro, lavorando 14 ore al giorno a fronte delle 6 ore e 30 stabilite dal contratto di lavoro, tutti i giorni del mese a fronte dei 6 giorni settimanali previsti ancora dal contratto, in condizioni di così grave sfruttamento, per l'appunto ad aver sviluppato tutta una serie di patologie gravissime. Ebbene, quell'aula è diventata una grande aula di giustizia, in cui la giustizia la chiede, la pretende, la riconosce innanzitutto quel lavoratore che ha deciso di ribellarsi a tutto questo. Ecco, che cosa fare, come agire, come intervenire è stata la domanda fondamentale, e ciò che abbiamo messo in campo forse ha rappresentato, dal mio punto di vista e grazie ai lavoratori che si sono ribellati, l'esempio più straordinario di un cambiamento possibile in questo paese, importante, con delle conseguenze straordinarie, che sta liberando persone ed è una straordinaria azione anche di antimafia sociale, oltre che economica, con l'avvio delle prime, ve lo do in anteprima, ma avverrà da qui a 6 mesi, delle prime cooperative agricole di ex braccianti gravemente sfruttati che avvieranno attività imprenditoriale pulita, cercando di condizionare anche in questo modo quel sistema commerciale che non è soltanto inquinato, ma che è condizionato da interessi e soggetti mafiosi e non. Grazie. Grazie Marco. 2 annotazioni, una domanda e poi la parola a voi. Ancora una volta la continuità. L'ultimo pezzo dell'intervento di Marco, le storie di queste persone, 4.000 persone portate in piazza a Latina. Fate un passo indietro nel tempo, pensando alla storia delle mafie. 1 maggio 1947, strage di Portella della Ginestra. La strage è il momento in cui le organizzazioni criminali e lo Stato decidono di fermare il movimento contadino, che era un movimento bracciantile, era quella cosa lì, perché come dice molto meglio di me Nando Dalla Chiesa in più di un testo, fra i vari linguaggi arcaici che le mafie parlano, un linguaggio è e rimane anche oggi quello della terra, quello del fuoco, e questo forse riguarda più il tema degli incendi, è un altro, quello della terra è uno degli elementi prioritari. Non è una storia nuova, è una storia che continua e che ci riguarda. E l'altro elemento è, che mi colpiva, e di nuovo ci riporta alcune cose dette, questo passaggio culturale che bisogna fare tutti sempre, anche stupendosi, il passaggio dall'eccezionalità alla normalità delle cose. Cioè, finiamola di interpretare le mafie come caratteristiche eccezionali di territori eccezionali o di persone eccezionali. È piena la narrazione, i capi mafia come persone di incredibile intelligenza eccezionale, o di incredibile efferatezza eccezionale, anche questo carattere qua, e invece forse usare delle caratteristiche interpretative più legate alla normalità, perché io non so quale sia l'azienda, mentre tu parlavi, che produce vino, delle fantasie me ne sono fatte, ma se non l'hai detto tu non lo dico io, e magari si chiede off records, l'impresa lì non è in mano all'efferatissimo criminale, è a un normalissimo imprenditore. E questo tema della normalità secondo me è centrale, e la domanda magari per l'intervento successivo, io ricordo una tua intervista uscita forse sul Fatto, proprio sulla ricerca, in cui tu dicevi che eri in contatto, eri stato in contatto sia col caporale indiano sia col trafficante di uomini indiano a sua volta, che gestiva un pezzo di quella filiera di indiani che partivano e venivano a lavorare lì. E dicevi, però correggimi davvero se sbaglio perché è un vecchio ricordo, che come dire, che loro non erano convinti di fare una cosa criminale, loro erano convinti di fare una cosa normale, anzi in una logica di aiuto di una comunità verso la propria comunità. Allora, questo mi colpisce, perché quella è la normalizzazione, no? Di cose che interpretiamo come criminali, ma guardate che è proprio quello il tema, anche per i comportamenti mafiosi, anche in questi territori. Cioè, la dottoressa Tattini, la commercialista di Bologna, presente, era convinta di fare una cosa normale. E finché noi mettiamo il filtro dell'eccezionalità, quel filtro ci serve solo a una cosa, ad autoassolverci. Perché noi non siamo fatti così, quelli sono eccezionali e noi non siamo così. Finché non mettiamo il filtro della normalità, non abbiamo strumenti sufficienti per comprendere. Ci fermiamo a giudicare e non a comprendere. Per carità, giudicare è importante sul piano etico, sul piano della morale, sul piano di fare scelte differenti. Però sul piano della comprensione non aiuta così tanto, perché ci porta fuori, ci mette da un'altra parte. Ecco, io ringrazio Marco anche per questi elementi di riflessione ulteriore. Esatto, a voi la parola. Cioè, io sono appena stato accusato da mia moglie 2 ore fa di vivere nella tuboletta rosa, ringrazio il cielo che ho sposato uno che è fondamentalmente buono. Io sono venuto a contatto qualche anno fa con un'impresa canadese che è il più grande produttore di mirtilli del mondo e che ha 30 km a est da Vancouver. Bene, ho visto le diapositive del loro lavoro, poi la cosa non è andata a buon fine, non sono stato da loro preso. Tutti questi indiani con un bravo turbante sikh a raccogliere mirtilli con una tecnica particolare, con il campo allagato, loro dentro l'acqua, che questi vengono a galla, gli riescono a prendere meglio. Guarda, sentendo discorsi dico, cavolo, ma allora noi quando parliamo di agrumata, pensiamo sempre al Made in Italy, questi qua io non li ho visti poi trattare, perché evidentemente in questo pianeta ha tanti di questi esempi che noi non vorremmo mai vedere. Poi lì non so come funziona il fondo, lì arrivano, la raccolta estiva, scendono dall'aereo, li riportano sull'aereo e tornano in India. Io non ho idea se invece in provincia della Cina sono persone che li sentono tutto l'anno, quindi sono ragazzini che vanno a scuola, che alla fine vengono coinvolti nella vita normale. Questa è la mia domanda, per essere aiutatemi un po' a poggiare i piedi per terra e scendere dalla tuoletta rosa. Prima di rispondere, ne raccogliamo magari 2 o 3 così non rischiamo, ma anche domande o anche suggestioni, impressioni e considerazioni. Non se impressioni per... queste diapositive di queste persone non vanno a raccogliere. Lo credo. Altri... Io devo fare il loro tecnico di difesa antiparassitaria, poi non è andata a buon fine, hanno continuato a tenere un messicano. Altri che hanno domande? Prego. Io diciamo che abbiamo, anni fa abbiamo creato un comitato perché qualcosa non ci tornava proprio per via della costituzione dell'ennesima area dove dei rifiuti dovevano essere trattati. Acqua, tutte le procedure, completamente disinformati di questo, che hanno fatto un'immersione pazzesca di miliardi di tonnellate di pagine di documenti difficilmente comprensibili subito, ma abbiamo cominciato a capire tutte un po' di quelle cose che avete detto, per forza, a immediatamente abbiamo capito che davamo non un fastidio, una cosa complicata nella piena Emilia, nella piena torquista, la mia domanda è sempre questa: il problema mi sembra immenso, il mio problema mi sembra un problema che sia insormontabile, magari anche un problema, è sicuramente un problema mondiale, restiamo contenuti alla nostra titolare italiana, ma quando il problema lo vedo troppo grande mi viene da scappare via e dico: ma gli altri cosa fanno? Austria, per esempio, o Germania, cioè determinati stati che sembrano apparentemente virtuosi, se lo sono, nella capacità di gestire i rifiuti e forse anche nella capacità di gestire una malattia, ma come fanno? Possono bravi a nascondere e non siano bravi? Questa è la mia domanda. Che riguarda tutte e due, immagino. Certo, sì. Direi che è difficile di dire una cosa. Siamo una squadra. Dietro, nascosti, prima di andare a cena. Vi abbiamo già stancato. Ognuno per i fatti suoi. Prego. Una domanda. Cioè, una domanda. Io sono di Bologna che vivo a Pilastro, che è un quartiere che per l'Italia ha un certo sentito, è la periferia metà di Bologna, del modello della città. Mio figlio fa la primaria a Pilastro. Ed era al Pilastro era la 1 bianca. Da torinese faccio la domanda, cioè lo sapete tutti, ma mi ricordava qualche cosa. Sì, sì, ma dove sono successe quarto giorno di Milano. E vive lì, insomma, vabbè, ma questo è un altro discorso. La primaria, a Piazza, è la primaria con il maggior numero di bambini, di figli non italiani. C'è un rapporto del circa 70% a classe, bambini non di genitori nati in Italia, anche bambini non nati in Italia. Io mi sto accorgendo, nel senso sono la terza anno di primaria di mio figlio, che attorno alla comunità, alla scuola, ci conosciamo. Io conosco le storie dei genitori, dei bambini, che frequentano la classe con mio figlio. Che sono migranti, che sono venuti in quel barcone, le so dopo 3 anni, le conosco, perché c'è la scuola, è un centro di aggregazione, che fa comunità di per sé. Quindi mi chiedo, com'è possibile? Cioè, in una situazione come questa, per 4.000, io parlo di Latina, dell'esempio che ha fatto il professore di Marco, senza professore. Mi chiedo, dove sono questi bambini? Non ci sono, non vanno a scuola, non sono inseriti. Sì, capito. Cioè, la domanda è arrivata forte e chiara. La domanda è chiarissima. Altre domande? Facciamo un primo giro? Sì. Vai. Io ho un paio di considerazioni, ma più a latere, le tengo magari per più avanti. No, non c'è, sì. Se salto qualche domanda, ridomandata. Io partirei da questa della scuola, se me lo consentite, perché per me è particolarmente significativo ed estremamente interessante. La comunità che ho studiato presenta delle originalità, è stanziale, presente nel puntino da oltre 30 anni, da circa 15 attraverso i ricongiungimenti familiari si sono costituiti gruppi familiari. Abbiamo chiaramente ragazzi che sono nati dentro famiglie indiane, ma in Italia, che quindi sono naturalmente portati ad una esplorazione che è contagiosa, no? Rispetto alla nostra storia, al nostro modo di comportarci, eccetera. Poi vi dirò peraltro che cosa significa vivere come famiglia in alcuni territori. Io ho vissuto un certo periodo come ricercatore dentro il ghetto, cosiddetto ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, detto Borgo dei Bulgari. Quando arrivai di là, scusate questa parentesi, ma io immaginavo di trovare solo braccianti uomini. La cosa devastante fu che ci vennero incontro i bambini che abitavano dentro un ghetto che durante la sua fase di espansione maggiore ospitava oltre 2.000 persone in baracche con coperture in alluminio, senza luce, acqua e gas, servizi igienici, zero. Questo significa che noi non abbiamo soltanto un grande problema che riguarda il tema lavoro o il tema reclutamento e quindi come questi uomini vengono reclutati e impiegati poi nelle aziende o nei campi circostanti, ma abbiamo un grande problema che riguarda i bambini, che riguarda i processi di educazione, di formazione, eccetera, eccetera. Ora, in realtà gran parte di queste famiglie indiane hanno per l'appunto bambini e bambine e tutte queste vanno a scuola. Noi abbiamo l'idea di un migrante che quando arriva da noi in qualche modo si spoglia dei suoi panni, della sua cultura originaria per indossare i nostri, non è così. Hanno la loro cultura, giustamente la rivendicano, hanno dei percorsi di abitudine anche culturale, dei costumi. I braccianti indiani sono in India, per esempio, classe dirigente, questo lo fanno pochi. Non sono i più poveri, non sono i poveri di quel territorio, sono al contrario classe dirigente e a volte anche classe imprenditoriale. Questo significa che hanno chiara l'idea per cui, per esempio, per costruire l'emancipazione devono studiare, devono applicarsi, devono in qualche modo aprirsi al territorio dentro il quale loro vanno ad abitare. Ed infatti non c'è dispersione scolastica. Vanno tutti quanti a scuola, frequentano le scuole elementari, adesso non so più la divisione, ma insomma diciamo così, elementari, medie, a volte superiori. Stiamo aiutando i primi ragazzi ad iscriversi anche all'università attraverso delle borse di studio quinquennali, perché riteniamo fondamentale anche questo, chiaramente, no? Anche questa è inclusione positiva. Però guardate, qui si apre un grande tema che non riguarda tanto il processo di inserimento del bambino o bambina nel nostro sistema scolastico, ma la capacità del nostro sistema scolastico di apprendere la complessità e la sfida che porta quella persona. Noi abbiamo avuto casi di maestre che non erano persone delinquenti, ma brave persone, che alla vista del bambino indiano con il turbante, i bambini indiani non hanno il turbante classico, ma una specie di fazzoletto che chiude in testa i capelli, che viene prima in maniera piuttosto dispregiativa chiamata cipolla, obbligavano questi ragazzi a togliersi il fazzoletto in testa, generando una grande violenza nei confronti di quel bambino e della sua famiglia. Oppure non sapevano, per esempio, che un ragazzo indiano, Sikh, non mangia per scelta etica e religiosa carne, pesce, uova, non beve alcol, eccetera. Eppure nella mensa scolastica si presentava la fettina panata o l'uovo sodo. Ora questo potrebbe sembrare, come dire, cosa di poco conto. In realtà è un approccio respingente perché non considera la cultura dell'altro. Addirittura noi organizzammo, all'epoca era ancora in Legambiente, un progetto di mediazione, di mediazione culturale, uno dei primi, proprio con la comunità indiana. Invitammo, questo per darvi l'idea di quanto a volte si trovino ostacoli straordinari e che costituiscono delle barriere rispetto a processi di emancipazione importanti, permettemmo, demmo la possibilità ad alcune scuole di frequentare il tempio indiano. Vennero questi ragazzini straordinariamente belli, accompagnati da una professoressa, la ricordo ancora, che furono accolti dalla comunità indiana. Ora, i templi indiani hanno una caratteristica, hanno il luogo di culto e accanto il langar. Il langar sono le cucine pubbliche. Tutti quanti, indipendentemente dal proprio sesso, uomo, donna, dalla ricchezza, eccetera, vengono accolti secondo un principio di accoglienza e di uguaglianza generale. Non mi interessano le tue caratteristiche, mi interessa che tu sei, in quanto persona, bene accolto, perché questo è il mio approccio religioso ed etico. Bene, quindi furono accolti questi bambini e la maestra si guardò intorno. Noi parliamo di una comunità bracciantile, quindi è evidente che il tipo di accoglienza non era in un salotto dell'alta borghesia romana. Parlavamo di campagna e si davano quel cibo povero che i braccianti a quell'epoca potevano permettersi. La maestra disse a questi ragazzi: alziamoci, andiamo via, perché qui è sporco e puzza, torniamo tutti quanti in classe. Capite che quei ragazzi sono stati marchiati, ma anche con la comunità ha fatto un'esperienza drammatica in tal senso. Quindi c'è un grande tema di formazione e di informazione che deve permeare dentro tutte le istituzioni, a partire dalle scuole. Dentro la nostra scuola non abbiamo mediatori culturali. Un ragazzo che viene dalla Cina, che viene dall'India o che viene dal Giappone entra dentro il percorso scolastico e non viene accompagnato, come pure dovrebbe essere, in maniera adeguata, soprattutto in alcune realtà. Questo soprattutto, sì, questa Latina per esempio, però parliamo di una comunità di 30.000 persone, solo di indiani. E c'è un altro processo che in realtà è estremamente interessante, ed è ciò che accade dopo, perché concludono il proprio percorso di formazione, ma non esistono percorsi, come dire, di apertura della nostra società. Che cosa succede? Che il figlio di una famiglia di braccianti indiano non si può permettere l'università, la famiglia non ha le relazioni aperte che abbiamo noi e quindi tendenzialmente quella persona torna in famiglia, il proprio nucleo familiare non si può permettere di tenerlo senza lavorare per tanto tempo e ritorna a lavorare nelle campagne, vivendo uno stato di forte frustrazione, perché hai compiuto un percorso magari anche lungo, ti sei impegnato, avevi il desiderio di fare come i tuoi amici italiani, magari avevi il desiderio di andare all'università o di diventare ragioniere, invece ti ritrovi a lavorare come bracciante accanto a tuo padre che parla un italiano molto stentato, sotto caporale indiano, sotto padrone italiano. E qui si producono tre generi di fenomeni. Il primo, accetti tutto questo e vivi uno stato di frustrazione estrema. Questo perché le relazioni, il network sociale della tua famiglia è debole, perché noi viviamo in un sistema che ancora una volta rende ai margini, ti costringe a stare ai margini, ti dà possibilità di uscire da quel genere di situazione. Oppure, seconda situazione, per emanciparti diventi caporale. E diventi caporale perché? Qui torniamo alla tua osservazione. Perché tu, rispetto al caporale di prima generazione, degli strumenti in più, parli correttamente l'italiano, conosci il tuo paese di accoglienza che è diventato il tuo paese natale e quindi anche tutte quelle procedure formali ed informali. Quindi tutte quelle regole, quelle prassi, che ti consentono di mascherare in maniera molto più sofisticata il caporalato, e addirittura anche alcuni diventano trafficanti di esseri umani, perché in associazione con i padroni, imprenditori agricoli, riescono a gestire un sistema di tratta in maniera molto più astuta, addirittura inserendo i braccianti indiani dentro il nostro sistema quote. E questo peraltro significa che noi abbiamo una legislazione che è particolarmente debole sotto questo punto. Il processo di delegittimazione, per esempio, del lavoro e di costruzione di norme che hanno poi regolamentato i flussi migratori hanno prodotto, hanno concorso a produrre quello che ho cercato di descrivere. I braccianti indiani arrivano, eppure sono vittime di tratta internazionale, non a piedi dall'India e neanche con la barca, arrivano con un regolare biglietto aereo, con l'aereo, eppure sono costretti a pagare a volte 20.000 euro al trafficante per farli arrivare in Italia. E poi vanno a lavorare esattamente presso quella certa azienda dell'imprenditore che preventivamente lo ha selezionato ed inserito dentro il sistema vuoto. E questo il nostro paese lo sa, lo abbiamo raccontato in tutti i modi. Io ho seguito un trafficante di esseri umani in India per la prima volta e ho osservato, denunciato, analizzato questo sistema di tratta. Il trafficante non si muove da solo, si muove su un mandato di un padrone che gli chiede di reclutare persone da impiegare nella sua azienda in condizioni di grave sfruttamento lavorativo. E badate la cosa perversa che normalizza: quel bracciante considera normale e legittimo questo genere di passaggio, perché unica occasione che ha per uscire da quella situazione è di arrivare da noi. E ancora di più, il bracciante, questo indiano non soltanto, migrante, straniero, diciamo così, vive un rapporto che in una fase soprattutto iniziale è di riconoscenza nei confronti del caporale, perché è l'unico soggetto in assenza dello Stato che garantisce a quella persona la possibilità di lavorare il giorno dopo e le settimane successive, quindi di ottenere quel minimo di denaro necessario per poter mantenere se stesso, la propria famiglia nel paese di origine, rimandare rimessa economica allo scopo di saldare il debito e di proseguire la propria esistenza. La grande attività che noi abbiamo messo in campo, che è stata anche per me un'attività antimafiosa, ma soprattutto di carattere culturale e sociale, è stato quello di cambiare il linguaggio attraverso i corsi di formazione che facevamo a volte anche di notte, alla presenza di prima 10, poi 50, poi 100 braccianti, in cui per esempio abbiamo spiegato il ruolo del caporale. Il caporale è un soggetto criminale che vediamo noi, che abbiamo certi strumenti. Il bracciante vittima di caporalato non lo interpreta nello stesso modo. A volte il caporale è addirittura un parente stretto. Siamo stati noi che per esempio gli abbiamo mostrato per la prima volta e analizzato e studiato con loro le loro buste paga. Ve ne faccio vedere una. Guardate, questa è una busta paga regolare, formalmente regolare, è dell'INEM, è tutta ben predisposta, è di un bracciante indiano in un'azienda agricola piuttosto importante, solo che alla fine questo bracciante per lavorare 28 giorni al mese è stato pagato 164 euro. Il bracciante con noi per la prima volta, guardando la sua busta paga, e non quindi attraverso un verbale, una narrazione semplicemente orale, ha osservato che qui, ha capito che su questo, su questa parte della sua busta paga c'era scritto il numero 3. E il numero 3 era un numero di giornate registrate dal caporale del padrone a fronte delle 28 effettivamente lavorate. E quindi è entrato dentro un meccanismo, lo ha esplorato in prima persona, ha costruito un altro percorso di consapevolezza. E questo è stato fondamentale per portare quelle 4.000 persone in piazza. Così come abbiamo fatto corsi di diritto costituzionale, di diritto del lavoro, di analisi normativa. Abbiamo tradotto non per loro, ma con loro i contratti di lavoro per la prima volta nella loro lingua di origine. E quindi con loro abbiamo compreso, loro hanno compreso che per esempio non devono pagare 50 euro al pronto soccorso quando subiscono gli infortuni sul lavoro, che hanno diritto alle ferie retribuite, che un contratto è qualcosa che vale in questo paese e può essere fatto valere anche in sede di giudizio, che devono essere pagati 9 euro lordi l'ora e non 2,50 euro o 50 centesimi. All'inizio della mia esperienza erano persone che venivano pagate 50 centesimi l'ora. Un caffè a Bologna quanto costa? Tu sei di Torino, mi trovo. 1,10 euro. Ecco, 2 ore di un bracciante indiano chinato dentro una serra per pagarsi un caffè a Bologna. Quindi questo processo di destrutturazione e ristrutturazione del linguaggio allo scopo di comprendere, ma non tanto per costruire il conflitto o l'avvertenza, ma per costruire uno spazio di libertà in cui quella persona, quella comunità potesse decidere come collocarsi rispetto ai propri sfruttatori. E quindi su 30.000 ad un certo punto 4.000 hanno deciso di alzare la schiena. Guardate che alcuni si sono fatti 20 km in bicicletta per arrivare a protestare, a manifestare innanzitutto, perché quella manifestazione era un grande rilancio di sé, in cui loro palesavano se stessi, prima ancora di chiedere diritti e legalità, finalmente conquistavano uno spazio pubblico. Io poi ho un video, se abbiamo tempo lo vedremo, e per la prima volta loro non erano più costretti a raccontare la verità che gli veniva imposta dal padrone sotto le serre, ma avevano la possibilità di raccontare la loro verità. E badate che questa è una trasformazione antropologica straordinaria, portando i loro simboli religiosi. Quant'è grande la Latina? C'è una domanda da ignorare. Come numero di abitanti? Sì, perché le 60. Sì, poco più. 60-70. 70.000 persone. Quindi 30.000 con 70.000? No, comune di Latina. Sì. No, 30.000 su tutta la provincia. Tutta la provincia sono 33 comuni. Guardo se lo trovo. mi pare la sesta o settima città per dimensione se unissimo tutti quanti gli indiani insieme. Chiaramente sono diffusi in tutto il territorio provinciale. Quindi voi capite che cosa è stato messo in campo e riportarne altri 3.000 il 27 ottobre non è stata... 570.000, la provincia di Latina. Sapete da dove arriva quello sciopero del 21 ottobre? Arriva da due episodi, uno particolarmente importante, che è negativo, ma dà l'idea di quanto la costruzione di un percorso sociale, di impegno quotidiano, dà frutti a volte insperati, o meglio, sperati ma non garantiti. Deriva da un evento drammatico, cioè un imprenditore agricolo, il comune di Terracina, tra Terracina e Sabaudia, legato probabilmente ad un'azienda, probabilmente perché voglio andare sul sicuro, non voglio dire cose che non posso dimostrare concretamente, legata ad ambienti mafiosi importanti, Camorra, impiegava 6-5 braccianti indiani, facendoli lavorare 18 ore al giorno. Come obbligava questi ragazzi a lavorare 18 ore al giorno, puntando loro sulla testa un fucile? Questo imprenditore aveva in casa oltre 50 fucili da guerra. Ebbene, quei braccianti quindi erano costretti con la paura a lavorare. Chi provava a liberarsi da questo gioco, il che significava semplicemente anche dire oggi non vengo a lavorare, sto male, cercavano come dire di liberarsi da questo sfruttamento estremo, veniva ricattato al punto che gli veniva puntato un coltello alla gola, oltre che gli veniva sparata ad altezza uomo sulla propria abitazione, forma di intimidazione molto grave. Questi cinque braccianti hanno vissuto tutto questo per molti mesi. Uno di questi ad un certo punto decide di fare un passo diverso. Questo bracciante ha seguito i nostri corsi, io ho tenuto corsi che vi ho sinteticamente descritto davanti alle aziende agricole, nei luoghi di lavoro, nei luoghi di culto, nei templi, dentro i negozi indiani, dove semplicemente con un banchetto di plastica bianco che noi attivisti usiamo una volta, no? Facevo venire questi ragazzi e continuavo a fare formazione continua. Questo ragazzo aveva iniziato ad imparare l'italiano e a capire come era organizzato il nostro sistema e che quindi all'interno del nostro sistema poteva chiedere e pretendere anche giustizia. Anziché restare sotto la canna del fucile di questo criminale, ha deciso in via autonoma, perché questo è il principio fondamentale, l'autonomia, libertà, di non parlare neanche più con me pure aveva un rapporto speciale, né con il capo della comunità, che con me ha organizzato gli scioperi, le occupazioni delle aziende, eccetera, ma di andare direttamente dalla polizia. Quindi ha rotto il sistema di omertà, di violenza subita, eccetera, eccetera, ha avuto un atto di coraggio, straordinario, di ribellione. È andato dalla polizia, ha raccontato, ha portato le prove, la polizia è intervenuta ed ha arrestato questo criminale. Badate, cosa fondamentale. La comunità ha preso coscienza di tutto questo e in maniera autonoma ha deciso di organizzare lo sciopero. Quello è stato il primo sciopero in Italia a non essere stato organizzato da me, italiano, attivista, ricercatore, giornalista, né dai sindacati, ma dalla comunità dei lavoratori stessi, che è scesa in piazza in ragione di quell'evento per dire basta a tutto questo. Noi siamo qui e siamo disposti a raccontare, a dire come vanno le cose, eccetera, eccetera, a diventare testimoni, ad avviare processi, eccetera, eccetera. Quindi un cambio radicale, straordinario, secondo me anche straordinario esempio per tanti nostri concittadini che in quel territorio per oltre 30 anni sapevano, hanno sempre saputo, perché l'idea della persona invisibile è fondata sulla retorica, quei ragazzi non sono invisibili, gli sfruttati non sono invisibili, gli sfruttati si vedono benissimo. Io il primo bracciante indiano che ho incontrato era perché attraversava in bicicletta a casa mia tutte le mattine, l'ho osservato e ho deciso di rompere un confine che è ipocrita, ma un confine molto forte tra noi e loro. L'ho seguito, ho parlato con lui e piano piano sono entrato dentro quella comunità. Non sono invisibili, perché noi li vogliamo tenere invisibili. Non solo i padroni, ma anche la nostra indifferenza in questo senso costruisce l'invisibilità. Marco, scusa, chiudo. No, e poi io tornerei per la questione Mirtilli, però Antonio qui... prendere la mano. Sì, no. Va benissimo. Antonio sulla parte più rifiuta. Questa questione qua, sì. Come si inseriscono perché vedo che l'esempio che hanno bene, questi uomini presto caricati, messi la parata, caricati e spariscono anche qua, o se proprio c'è una comunità permanente. Sì, eravamo tutti affascinati, un po' frastornati anche da queste storie del caporalato, veramente incredibile. Sostanzialmente, cioè Marco, quello che fa Marco, quello che Danilo Dolci, no? Tanti anni fa ha fatto in Sicilia e che continuo, diciamo, a considerare come un elemento fondamentale. Cioè, la lotta alla mafia è una lotta che passa assolutamente dalla giustizia sociale e da una cultura dei diritti. Quindi la miglior lotta alle mafie, quindi alle ecomafie, è una lotta, diciamo, che porta alla giustizia sociale. Questo è un elemento fondamentale, per questo, insomma, questi due aspetti, questi due fenomeni in qualche modo si incrociano. Rispetto alla domanda che veniva fatta sul tema dei rifiuti, ovviamente, diciamo, passare dal racconto del caporalato ai rifiuti è un salto carpiato molto, diciamo. C'è un libro bellissimo di Bauman, Vide di scarto, come lo c'è. Assolutamente, l'ho citata tutti i miei libri, diciamo, quella definizione di Bauman è citata, perché in effetti il tema dei rifiuti riguarda un po', diciamo, i vinti della storia, diciamo, ciò che finisce, diciamo, dietro le quinte dei processi di industrializzazione. Diciamo, volendo tornare a bomba a questo tema qui, direi intanto che rispetto al tema dei rifiuti, il fatto che per troppi anni questo tema sia stato lasciato all'improvvisazione, quindi alla mancanza di professionalità, eccetera, ha sicuramente creato uno iato tra le istituzioni e quindi chi si propone di gestire questo fenomeno e poi il sentire della collettività. C'è sicuramente una cultura della diffidenza che è stata in qualche modo, si è ingenerata nel tema dei rifiuti, quindi non essendoci stato mai, come dire, un percorso di condivisione, di partecipazione rispetto a come gestire i rifiuti, rispetto a quali impianti costruire, rispetto ai territori, rispetto alla governance complessiva, questo ha sicuramente ingenerato nella collettività, nell'opinione pubblica, una grande diffidenza nei confronti dei rifiuti. Anche, diciamo, questi incontri e il ragionare di questo tema deve servire anche a questo, ad uscire da una certa demagogia molto spesso, da una certa retorica, e cominciare a guardare i rifiuti appunto come una questione complessa che va affrontata in maniera complessa. Il nostro, per esempio, non è un paese, diciamo, non è il peggior paese al mondo, anche rispetto all'Europa, è un paese che ha ovviamente delle punte di eccellenza, che la gestione virtuosa si spalma sul territorio in maniera, diciamo, abbastanza a macchia di leopardo, ha in molte regioni delle punte d'avanguardia, punte d'eccellenza, e in altre regioni ha delle punte di arretratezza molto, molto gravi. Il nostro, per esempio, è un paese che è necessariamente un paese manifatturiero, quindi un paese a corto di materie prime, che le ha sempre trovate nel riciclo, ha trovato sempre la fonte di accaparramento di materie prime. Per esempio, la siderurgia italiana nasce appunto con l'utilizzo, per esempio, dei rottami ferrosi, per esempio. L'Italia è uno dei massimi riciclatori al mondo di alluminio, siamo grandi riciclatori di carta, di cartone, quindi il nostro è un paese appunto che riesce a esprimere anche delle punte abbastanza avanzate di gestione, quindi è un paese che fa una raccolta differenziata che negli anni è migliorata, ed è un paese appunto che punta molto sul recupero di materia, quindi è un paese che ha molte difficoltà, ma è anche un paese che ha una storia nel recupero di materie, quindi nel riciclo. A differenza di molti paesi, la stragrande maggioranza dei paesi, soprattutto del nord Europa, che hanno un approccio molto più, diciamo, spiccio al tema dei rifiuti, dove sicuramente paesi come la Germania, come i Paesi Bassi, come la Danimarca, eccetera, non mandano quasi nulla in discarica. Quindi fanno altissime percentuali di raccolta differenziata, parliamo sempre di quel famoso 15%, ok? Parliamo di quel 15-20%, non parliamo dell'altro 80%, che invece, essendo rifiuti speciali, sono lasciati al libero mercato, e quindi c'è un produttore e un gestore, e la domanda e l'offerta si incontrano, si stabilisce un prezzo e vengono gestiti. Quindi parliamo sempre di quella piccola parte. Li raccolgono molto, in maniera separata, a differenza, però inceneriscono. cioè puntano soprattutto sull'incenerimento, sul recupero energetico, mentre l'Italia punta molto di più sul recupero di materia. Quindi questo è un po', diciamo, come dire, un elemento fondamentale. Quindi è il nostro un paese che punta sul recupero di materia, che ha cominciato molto male, sta migliorando, è un paese dove si vive molto appunto di retorica sul tema dei rifiuti, perché è un paese per esempio che ha attualmente un grave deficit impiantistico, cioè noi abbiamo un fabbisogno di impianti che non viene soddisfatto perché ovviamente non si riesce a trovare mai la quadratura per far nascere gli impianti. E gli impianti, attenzione, questo è un elemento fondamentale, gli impianti non devono essere, diciamo, concepiti dall'alto e imposti verso il basso. Gli impianti devono essere concepiti come figli di un ciclo integrato dei rifiuti che rispondono ai dettami del testo unico ambientale, che impone che il ciclo sia in qualche modo chiuso, ciclo integrato sia chiuso all'interno di ciascun bacino di riferimento. Come ci insegna l'Ecomafi, i rifiuti meno si movimentano, meno vanno sulle lunghe distanze, meglio è. Quindi i rifiuti devono essere gestiti all'interno del proprio bacino di riferimento. E la pianificazione, che è una pianificazione politica a livello regionale, deve avere il coraggio e l'ambizione di concepire ed elaborare dei piani di gestione dei rifiuti che siano in grado di in qualche modo contemplare sia la gestione dei rifiuti urbani che la gestione anche in parte dei rifiuti speciali. Rispetto a questi temi, gli impianti devono essere in qualche modo a servizio delle comunità. Vi ricordo sempre che gestire i rifiuti è sempre un'attività di interesse pubblico. Questo non significa che lo debbano gestire solo, diciamo, soggetti pubblici. O posso gestire anche i privati, ma l'obiettivo principale è quello di soddisfare un interesse pubblico, ok? Quindi gli impianti devono essere espressione di un'esigenza di un determinato territorio e chiudere un ciclo integrato, però gli impianti vanno fatti, questo è il tema. Il contrario, diciamo, di un ciclo integrato è un ciclo aperto in cui le mafie o le varie forme di criminalità offrono servizi per chiudere a loro modo i cicli. Cicli concepiti in maniera corretta sono capaci intanto di ridurre la produzione di rifiuti, che partiamo dal presupposto che il miglior rifiuto è quello non prodotto. Detto questo, vanno implementate e migliorate tutte le policy in tema di riuso, che è un altro grandissimo tema. Per esempio, la nostra economia non è concepita come un'economia fatta anche per il riuso, non esiste nemmeno un codice Ateco, tutto, per esempio, i mercatini dell'usato, eccetera, eccetera, tutto il mercato del riuso è un mercato lasciato all'improvvisazione, anche rispetto al tessile, c'è una logica per cui vengono, diciamo, anche le campane poi vengono vendute a peso, cioè è anche lì tutto da costruire la filiera che riguarda il riuso. E bisogna puntare sul recupero di materia e come ultima opzione il recupero di energia, che deve in qualche modo andare in conflitto soltanto con lo smaltimento finale. Chiudo dicendo che ovviamente le prime R, quelle della riduzione, riuso e il recupero di materia, sono quelle da preferire. Non avrei un tabù nei confronti anche del recupero di energetico, considerando che, diciamo, si può produrre anche energia che sostituisce energia da fonti fossili, quindi attenzione, energia da fonti fossili, attraverso anche una digestione anaerobica, per esempio, della frazione organica. Questo è un altro gran tema, che è uno dei temi, diciamo, scottanti, che vede rispetto a ipotesi, no, di costruire dei digestori anaerobici che puntano a recuperare dalla frazione organica biogas o biocarburanti, con la possibilità di recuperare addirittura CO2 che viene venduta, è un output che viene venduta alle industrie, diciamo, che producono bevande gassose, si produce anche dell'acqua per la fertilizzazione, si produce anche un digestato che può essere, che è disciplinato come sottoprodotto, ci sono 5 output. Ecco, è un modo intelligente di gestire la frazione organica, che deve essere concepita avendo a considerazione anche, per esempio, quelli che sono gli scarti delle attività agricole, a zootecnia, eccetera, a chiusura di un ciclo. Quindi la gestione dei rifiuti è una gestione che deve partire dalle esigenze del territorio e deve cercare di in qualche modo implementare quella grande sfida, che guardare ai rifiuti non soltanto come un costo, ma anche come un valore, sapendo benissimo che anche, diciamo, lavorare rifiuti significa impiegare energia e significa a sua volta anche produrre degli scarti, perché le leggi della termodinamica esistono e non possiamo far finta di niente. Quindi rispetto a questi temi ci vuole grande, grande serietà, un approccio laico, ed è sempre, diciamo, importante rimarcare che sono da contrastare gli impianti sbagliati, concepiti in modo sbagliati, che sono frutto, diciamo, di logiche di speculazione speculative, ma che per gestire in maniera corretta i rifiuti che vengono comunque prodotti, posto che nel lungo periodo si spera di riuscire a produrre sempre meno rifiuti, ma per quelli prodotti devono essere gestiti in una logica di ciclo integrato, per cui una certa, diciamo, demonizzazione di tutti gli impianti è anche una cosa che in qualche modo fa il gioco di chi offre, diciamo, scorciatoie abbastanza facili. Grazie Antonio, io aggiungo una cosa e poi avrei io un'ultimissima domanda per voi due, sintetica, perché mi sembra tardi e tutti stanchi. La cosa che aggiungo è che mi interessava un pezzo che era emerso dalla domanda che faceva il signore in prima fila, ma mi pare stesse anche in altri, come dire, ma cioè, se il problema è così grande, così pervasivo, mi inibisce, cosa faccio io di fronte a un problema così grande? Cioè, se la penetrazione in tutto il mondo dell'agroalimentare, dal Canada a qua, se tutto il ciclo dei rifiuti è marcio, io con la mia aziendina che cosa posso fare? Ah, io credo che in parte, quantomeno per me, sia impossibile rispondere a questa domanda. È una domanda che mi pongo anche io, nella misura in cui un pezzo del mio lavoro in un'azienda, organizzazione, che si chiama Avviso Pubblico, e che prova dall'alto di 400 soci a fare il contrasto all'organizzazione criminale e alla corruzione, e ogni giorno mi pongo la domanda un po': ma che senso ha questa roba qui che vado a fare? Cioè, cosa produce? In parte però credo che sia una domanda che è anche sbagliata, perché presuppone un tutto che non è proprio un tutto. Cioè, io penso che si debba in qualche modo uscire dalla dinamica per cui o la mafia non c'è, niente mafia, oppure tutto quanto diventa mafia, no? E diventa un tutto così grande che non riesco a prenderlo. Io credo che le mafie stiano nei sistemi, diceva prima, ma usava il termine sistema, sono pezzi di un sistema. Pezzi di un sistema funzionali a quel funzionamento del sistema, alla sopravvivenza di quel sistema, all'arricchimento di alcuni elementi, di alcuni soggetti che stanno all'interno di quel sistema, e ci staranno finché saranno funzionali. Per questo c'è una domanda, per questo se no non si spiegherebbe come mai, cioè, come dire, gli stati hanno sconfitto eserciti molto più efferati e molto più potenti numericamente. I pirati sono stati una cosa enormemente più numerosa e più armata, ma la stessa rivolta degli schiavi in Italia con Spartacus aveva numeri e armi che, per quanto ce la raccontiamo, no, ci sono e rimangono perché hanno una funzione. Quello che possiamo fare noi è cercare di vedere che non è un tutto e vedere le esperienze diverse, vedere gli elementi di difficoltà, e penso alla domanda, non domanda, che faceva lei sui bambini, dove sono, li vediamo. Ma ci sono un sacco di cose che vediamo e che ci dimentichiamo di vedere, ma perché il nostro cervello ci fa funzionare così. Cioè, prima ancora degli immigrati clandestini che lavorano nei campi, il fenomeno della prostituzione è un fenomeno, come dire, che è sulle strade da quanti anni, che ci siamo abituati, che non riuscendo ad affrontarlo non possiamo che far finta, come dire, di non vederlo, ma non lo dico, faccio finta e poi penso che è giusto, però che siamo lì, che, cioè, io non conosco le strade di Bologna e dei dintorni di Bologna, conosco quelle di Torino, ma è pieno di vie che tu sai e passi e sai distinguere, perché la via è quella delle nere, la via è quella delle bianche, la via è quella delle italiane, la via è quella delle ragazze, e lo sanno tutti. E sono sulle vie di accesso alla città che tutti facciamo quando usciamo, andiamo e torniamo per andare a lavorare, non ne scappi di lì. Cioè, non sono più neanche solo in campagna, come dire, o in un posto chiuso. E i bambini ce lo sappiamo, ci sono, lo sappiamo, e in qualche modo non possiamo fare a meno di metterlo da una parte, perché non possiamo prendere tutto, non possiamo affrontare tutto in contemporanea, tutta la complessità che prevede il bello e il suo contrario, no? Ne scegliamo, ognuno di noi ne sceglie dei pezzi e fa quel pezzo lì, però non tutto è uguale. E faccio due esempi di questo territorio, non tutto uguale nel senso che la grande narrazione, ad esempio, che gli amministratori sono disattenti. Qui ci sono due persone che sono colleghe, che io non conosco, di Giulia Di Girolamo, che come voi, io non so di che partito, cioè non è una sponsorizzazione, non ci conosciamo minimamente, potrebbero, però ci sono due persone che sono qua come voi e ascoltano, ed è un passaggio. O penso nel mondo delle imprese, c'è un'azienda, o meglio c'era, perché io conosco l'esperienza di 10 anni fa, quindi anche in questo caso non è uno spot, non so che cosa sia oggi, che si chiama Granarolo, la cui amministratrice delegata 10 anni fa vince un premio importante, che è il riconoscimento del lavoro che quell'azienda sta facendo sul tema della legalità, perché quell'azienda è una delle pochissime in Italia, forse l'unica di quella scala e dimensione, che decide lei sotto Roma, io i prodotti non li vendo, e non vendeva lo stracchino, non li vendeva a Napoli, non lo trovavi, a Palermo non lo trovavi, perché lei quello che aveva visto è che non esisteva in quella filiera una possibilità, per quello che aveva visto lei, che fosse una, di non trattare con soggetti dall'apparenza e dalla concretissima realtà criminale molto molto molto pesante. Ci sono, non è proprio tutto così, è tanto così, e bisogna rendersi che è tanto così, bisogna rendersene conto per non farsi la fantasia che sia un'eccezione, ma non è tutto così, non è tutto così. Io sono sicuro che nell'area che da qua va Reggio Emilia, da Reggio Emilia va fino al Mantovano, che io ho fatto tante volte in macchina, che è piena di campi di pomodori dove vedo lavorare persone che sono, non so se indiane, però vengono da quell'area geografica lì, io non sono in grado di distinguere, e immagino che ci siano problemi non indifferenti, ma immagino anche che ci siano ditte che provano a fare delle cose diverse. L'altro elemento è che siamo anche consumatori, soprattutto su questa filiera qua di ragionamento. E il fatto di essere consumatori fa differenza da almeno due punti di vista. Uno, sull'agroalimentare, che va dal mercato, e io per un periodo, ma io non conto niente, la cosa non si sa, ma se siamo 10, 50, 20, 100, 1000, compro Granarolo già che ci sono. Sai che c'è? Facciamolo diventare un valore sul mercato, quell'elemento lì. Lei ha una perdita economica. Però trasformiamo, e questo riguarda forse anche le comunità degli amministratori locali, no? La possibilità di valorizzare su scale più ampie che non il singolo comune, sicuramente, però a livello regionale quantomeno sì, e a livello nazionale. Valorizziamo quelle esperienze sul mercato, visto che sul mercato stiamo. E secondo me quello è un grande valore in positivo, che noi possiamo agire insieme ai pezzi di responsabilità nel nostro lavoro. Lo stesso che noi possiamo agire e cercare di studiare e imparare, perché il tema che rappresentava in questo caso invece Antonio, del trattamento e degli impianti, è un tema fondamentale. Io non so quanti di voi abbiano avuto l'occasione di entrare in un inceneritore. Qui ne avete uno molto grande, che è gemello a quello che è vicino a casa mia, Iren, no? È lo stesso di quello che dice, che è a Grugliasco, comune in cui io lavoro. Io ho avuto fortuna di entrare, non per scelta, perché ho detto che figo, vado a vedere che ho fatto un inceneritore, non l'avrei mai fatto, ma perché abbiamo sul territorio di Grugliasco, in cui io lavoro, un fortissimo movimento contro l'inceneritore, di persone spaventate. Allora abbiamo fatto una serie di incontri, e quello che abbiamo pensato con le persone di Irene è portarle dentro l'inceneritore e vedere un inceneritore. È un'esperienza affascinante, perché al di là che uno poi ne può uscire continuando a pensare che quella non sia la soluzione migliore, su quelle scale, su quel tipo di impianti, si ha a che fare con ingegneri che studiano quella roba lì, non con la politica che vuole, che ti raccontano come fa quel pezzo, entra lì, tutta la filiera, come si, le molecole si dividono, come cadono le cose, qual è il livello di consumo, qual è il livello di inquinamento, e si esce un po' dalle fantasie su questi temi, che sono molto potenti, sia la fantasia che mi freghino, sia la fantasia per la salute, che sono fantasie che si scatenano intorno a quelli, perché di quelli c'è pubblicità, che non si scatenano, ma e le cave? Perché nel mio territorio, gran parte dei rifiuti che non vanno negli inceneritori perché sono fuori dall'area geografica, penso al Cuneese, tutta una parte dei metalli pesanti, se non sbaglio, vanno ancora nelle cave. E le cave le gestiscono meglio che gli inceneritori. Perché le cave piemontesi non sono in mano o consorziate con l'Andrangheta, con la Camorra, perché no, perché quelli stanno solo in Calabria. Ma l'abbiamo imparata questa storia qua, no? Allora, imparare, secondo me, studiare ci aiuta a fare delle scelte più consapevoli, a capire meglio i fenomeni e a fare delle valutazioni, ad esempio rispetto a chi ci amministra, anche diverse e un po' meno di pancia. Queste sono proprio le riflessioni a latere che mi venivano. La domanda a voi due per chiudere, 5 minuti ciascuno, così andiamo tutti prima invece di... Ah! Vai. Noi abbiamo promosso il programma di narrare le problematiche proprio perché riteniamo che una occorra prendere consapevolezza del problema, per poter affrontarlo e riconoscere. Noi ci siamo svegliati qui in Germania, nonostante ci fosse una parte di noi che da tempo denunciavamo delle situazioni particolari del processo Emilia che il corpo ci ha portato in una realtà alla quale non eravamo abituati. Qui è stato cercato il più grande processo di Ndrangheta dell'Emilia Romagna. E quindi, primo passo, ovviamente, presa di coscienza e consapevolezza. Però, tornando al tema che poneva Marco, cosa possiamo fare effettivamente? Il contrasto alla criminalità, al lavoro nero, al caporalato, passa attraverso l'analisi e il controllo della filiera, delle filiere di tutti. Noi proprio di recente abbiamo firmato un importante protocollo con le organizzazioni sindacali, che è il protocollo Patti. Attraverso questo protocollo, noi cosa abbiamo voluto lanciare come Stato? Non siamo contrari alle esternalizzazioni, però, tenuto conto che proprio per le esternalizzazioni si creano le sacche di lavoro nero, di caporalato, di mancanza assoluta di diritti dei lavoratori, perché attraverso lo strumento del subappalto, poi alla fine si finiva una cooperativa spuria che adottava un contratto collettivo che prevedeva il fantoccio, che non prevedeva le ferie, non prevedeva la malattia, non prevedeva il pagamento dei contributi. Noi abbiamo stabilito un principio più importante, a mio avviso. Noi non siamo contrari alle esternalizzazioni, ma quando queste fungono come qualificazione della prestazione lavorativa. E come facciamo questo? Stabilendo dei limiti, dei target qualitativi, al di sotto dei quali non si può andare. Quindi chi ha firmato questo protocollo, quindi organizzazioni sindacali di lavoro, organizzazioni sindacali di lavoro, si è impegnato a partecipare con noi ad un percorso che tende a tracciare la filiera, proprio per evitare che si creino le situazioni che abbiamo visto a Latina, come anche le situazioni in Italia, anche a Castelfrigo. Certo. Perché purtroppo nessun territorio è immune dalla criminalità, quindi delle risposte concrete esistono. Noi ci stiamo mettendo un impegno molto importante, la testimonianza di Giulia Di Girona è un po' la sintesi di questo impegno che abbiamo messo con l'amministrazione comunale, che ha una delega specifica da questo punto di vista. È la prima volta che viene istituita una delega specifica per questo tipo di fenomeni proprio nel territorio di Girona. Questo lo abbiamo fatto perché ci crediamo veramente, però è un percorso che non si realizza da oggi a domani e che, ripeto, parte dalla presa di coscienza di un problema di cui molti non erano assolutamente a conoscenza. Da Latini, che riteneva fosse normale porsi in un sistema di mediazione tra quelle che erano le imprese criminali e le imprese che in difficoltà si rivolgevano alle imprese criminali per uscire dalla situazione di difficoltà, inconsapevoli del fatto che quella stessa richiesta di aiuto era per loro una norma che voi siete verificate in moltissimi casi. E quindi noi abbiamo il dovere, il dovere istituzionale, di impegnarci da questo punto di vista e stiamo cercando di farlo. Ci tenevo perché mi sono sentito No, no, ma evviva! Grazie, no, io grazie nel senso che è da questi passaggi secondo me che poi si costruiscono delle possibilità di azione che stanno sicuramente in quegli ambiti lì. L'altro grande tema è tutto il tema dei controlli, penso sulla filiera, che in parte ha anche a che fare con la polizia locale, l'operato che la polizia locale può avere, ad esempio nella segnalazione e nell'individuazione di tutti quei capannoni che in questo momento in varie parti d'Italia vengono utilizzati per stoccare rifiuti al di fuori di tutti i circuiti, poi magari dati alle fiamme. Una grande inchiesta a Milano nasce sulla base di una segnalazione della polizia locale del comune di Milano, no? Cioè, quindi, poi sono piccole cose, però sono elementi da cui si parte. No, la domanda era, cioè, mi rendo conto che la domanda è da 100 milioni di dollari, avete anche solo 5 minuti per rispondere, però e che cosa si può fare? Un esempio, non tutto, quello che si può fare, però di fronte a questa cosa, appunto, un amministratore locale piuttosto che un cittadino, piuttosto che un professionista, perché qua ci sono avvocati, architetti, agronomi all'interno del loro operato come professionisti. E studiare, che è facile, l'ho già detto io, quindi non potete dire. Per quanto riguarda me, diciamo che questa è una domanda che emerge molto spesso, no? Sempre. Che cosa possiamo fare, qual è in qualche modo la soluzione? Io la soluzione non ce l'ho e sono certamente d'accordo. Vengo considerato un sociologo della complessità e quindi la complessità mi affascina, ma nel contempo noi non dobbiamo essere schiacciati, come dire, considerare la complessità come qualcosa di inarrivabile. Dobbiamo compiere una selezione e dobbiamo, rispetto a questa, come dire, cercare di costruire dei passi concreti. Ai miei studenti e alle mie studentesse io dico sempre: continuare ad informarsi. Io credo che questo sia il tema centrale, non abbandonare ed evitare il sensazionalismo, non abbandonare l'informazione, non abbandonare le ricerche che vengono prodotte su questo genere di temi, accompagnare le buone pratiche lì dove ci sono, anche attraverso la modifica del proprio sistema di consumo, accompagnare e sostenere quei pezzi della politica che sanno mettersi in gioco rispetto a questo genere di questioni, che significa non soltanto sostenere la buona pratica, ma fare in modo che quella buona pratica diventi una buona politica anche a livello nazionale e che quindi questa azione compiuta dal Comune di Bologna possa diventare di esempio per molte altre amministrazioni. Io penso che da questo punto di vista le amministrazioni locali possano e debbano fare moltissimo. Io consiglio, invito, sprono anche con una certa forza le amministrazioni locali della mia provincia e non soltanto, anche di quelle dove sono in corso processi per mafia, a costituirsi parte civile nei relativi processi. Il che significa non soltanto avere un ruolo, sapete, come dire, anche mediatico da raccontare, ma non lasciare sola quel bracciante o quella bracciante che ha avuto il coraggio di denunciare, per fargli sapere e apprendere concretamente che il giorno di quell'udienza c'è l'avvocato dell'amministrazione comunale che gli stringe la mano e lo sostiene, che è lì per sostenere una giusta causa, che è la sua giusta causa. E badate che questa esperienza non è di poco conto, perché è anche una grande esperienza di educazione civica, che ridà fiducia e smonta tante retoriche razziste e xenofobe che poi determinano la costruzione di confini e allargano la separazione tra le persone. Quindi da questo punto di vista c'è un percorso straordinario, è la consapevolezza, quindi, è investire sulla consapevolezza. Noi come consumatori, ma anche noi come cittadini, lo dico in maniera molto esplicita, io non posso sostenere in alcun modo tutta quella classe dirigente che ritiene questo tema marginale, periferico, che decide di non organizzare eventi come questi, quella classe dirigente ed imprenditoriale che per esempio in corso delle ultime settimane nel mio territorio sta organizzando conferenze stampa all'interno di aziende agricole alla presenza di 100, 200, 300 imprenditori, dichiarando che le inchieste, le analisi, gli studi, le ricerche di un giornalista sociologo sono tutte inventate perché lui è alla ricerca di medaglie, esponendo quel giornalista sociologo alle conseguenze di tutto questo, perché viene identificata la figura del nemico e quindi si costruisce isolamento e nel contempo anche obiettivo sensibile nei confronti di chi si espone su questi temi. Questa è una classe dirigente che deve essere bonificata, al pari della filiera, assolutamente al pari della filiera. Quest'estate compio l'ultima ma sarà l'ultima perché non ce la faccio più fisicamente, come dire, esperienza di osservazione partecipata, torno a lavorare come infiltrato nelle campagne, seguendo dei furgoncini, ho fatto la mia esperienza soltanto seguendo quei furgoncini e ho raccolto storie di braccianti che denunciano problemi di carattere fisico. Ci pensiamo poco, ma lo sfruttamento è qualcosa di molto più complesso del ti pago poco per farti lavorare molto. Le conseguenze fisiche derivano dall'utilizzo di fitofarmaci cancerogeni assolutamente vietati in questo paese dal 2009 e dal 2012, che vengono però, che continuano ad essere prodotti, la cui sostanza chimica di base viene acquistata in Cina, fatta entrare in Italia attraverso i porti di Gioia Tauro e Napoli, lavorati nei laboratori clandestini della Camorra in Campania e venduti di notte agli imprenditori o ai padroni pontini, che poi obbligano i braccianti indiani a distribuire quei prodotti altamente cancerogeni per loro, per l'ambiente, per i cittadini locali e per noi consumatori, appunto lavorando di notte senza alcun genere di protezione. Allora voi capite che c'è una dimensione molto ampia di questo fenomeno. E io quel prodotto, la necessità di non comprarlo, lo posso fare se lo so e se seguo questo genere di tema, non solo perché sento un rapporto di vicinanza, se volete anche culturale, ideale, con il bracciante indiano sfruttato, ma perché so che quella dimensione produce un prodotto che sul piano dell'estetica è assolutamente attraente, la melanzana lucida, tondo, eccetera, ma che poi in realtà produce conseguenze devastanti sul piano della salute personale mio, della mia famiglia, dei consumatori. Anche perché poi vorrei sapere, per esempio, quei prodotti agricoli, cioè i fitofarmaci, che fine fanno? Perché certo non possono essere smaltite legalmente. E allora ve lo dico io, si stanno iniziando a produrre interramento, fuochi notturni, che coinvolgono anche le plastiche delle serre, che sono impregnate di quelle sostanze, ed è qualcosa che questo paese ha già conosciuto e che ritorna in quel territorio, in provincia di Latina, ma che, badate, è molto più diffuso di quello che pensiamo. Oggi è uscito un articolo, credo, su Repubblica, molto interessante, sul numero di aziende che sono state chiuse per infiltrazione mafiosa anche in questa regione. Un numero straordinario. Possiamo definirci indifferenti? No, io credo di no. Informarci, orientare, analizzare, diffondere, è per me la cosa fondamentale, assumere consapevolezza ed essere consumatori e cittadini consapevoli e conseguenti. Sì, indifferenti sono il peso morto della storia, diceva Gramsci, cioè facile citazione. Ovviamente anch'io provo a districarmi nella complessità, evidentemente sono temi molto complessi, piuttosto che andare alla ricerca della facile risposta, proviamo a porci le domande giuste. Questa è un po' la logica, non siamo nel campo delle scienze esatte, come molto spesso si vuole, si millanta, ma siamo nel campo delle scienze sociali. Quel tema dell'ambiente, in particolare dei rifiuti, non è un tema da lasciare, come dire, ai cosiddetti tecnici, non è una questione meramente ingegneristica, ma è una questione sociale che deve coinvolgere l'intera collettività. Quindi questi percorsi sono percorsi virtuosi se passano dalla partecipazione e passano dalla responsabilizzazione. Cioè noi dobbiamo riappropriarci dello spazio pubblico, della Corà, della Citas, dobbiamo riappropriarci delle scelte politiche. Ormai è finito il tempo della delega, dobbiamo riappropriarci dello spazio pubblico, dobbiamo conoscere i problemi. Purtroppo la conoscenza passa è un percorso molto tortuoso, molto complesso, molto complicato, però è il necessario viatico per assumere poi delle decisioni che siano delle decisioni sensate. Non bisogna, rispetto a questi temi, fermarsi all'apparenza, perché, come diceva prima Francesco, se gli impianti di trattamento di rifiuti vanno a fuoco, o se i capannoni che la crisi economica, la delocalizzazione ha spostato le attività produttive da altre parti dove il costo del lavoro e i costi ambientali sono più bassi, se questi impianti, questi capannoni prendono fuoco, è anche perché c'è stato e ci continua ad essere, rispetto al tema dei rifiuti, un atteggiamento assolutamente miope. Perché non vengono affrontati i nodi? Impianti bruciano perché, come dire, la governance, perché le filiere non riescono a trovare mercati di sbocco. Perché nel momento in cui la Cina ha deciso di non raccogliere più la nostra monnezza, soprattutto le frazioni in plastica che hanno un tasso di frazione estranea che suda lo 0,5%, quindi non è che la Cina, come si dice sempre, non è che ha chiuso come dire, frontiere ai nostri scarti, ha chiuso le frontiere agli scarti che sono sporchi, quindi diciamo, perché vuole puntare a fare una raccolta differenziata e punta a una qualità dei rifiuti perché possano essere recuperati. Quindi è chiaro che una buona governance significa riuscire anche a creare un mercato a valle, quindi è importante fare una raccolta differenziata, ripeto, non soltanto dei rifiuti urbani ma anche dei rifiuti speciali, e riuscire a incanalare questi rifiuti raccolti in maniera separata in un percorso di valorizzazione, quindi che ci sia anche un mercato, perché se non c'è un mercato di valorizzazione poi il rischio è che questi rimangono sul groppone di alcuni imprenditori che trovano, diciamo, un modo più semplice di gestire, di smaltirli attraverso, diciamo, l'incendio. Gli incendi quindi sono, come dire, la ciliegina sulla torta di percorsi criminali che molte indagini stanno dimostrando e che riguardano l'intero paese, anzi soprattutto il nord, appunto perché il nord ha impianti di selezione, di stoccaggio, ma non ha ancora, diciamo, tutti gli impianti di valorizzazione che sarebbero necessari. Quindi insomma, rispetto a questi temi occorre sempre grande, diciamo, capacità di analisi, non fermarsi alla prima domanda, ma cercare di governare, come proviamo a fare io e Marco, la complessità ponendo delle domande giuste. Insomma, quindi è un esercizio che in qualche modo vorremmo condividere con tutti quanti voi. Grazie. Se non c'è altro, grazie a tutti. Sono le 9. Grazie di essere stato qua tutta la sera. Rubato già troppo tempo. Michele Campagnello del PD. No, ma è... Ho detto a margine, non è uno spot elettorale, però siccome. No, ma non c'è niente di male essere un partito. No, io sono orgogliosamente. No, io perché io ho detto, io non so di una, sapevo che conoscevano Giulia, ma non lo sapevo davvero. Queste quelle fobie che c'è a questa cosa che il partito ormai vengono. L'alternativa ai partiti è cos'è? Cos'è? La demagogia cos'è? Cioè io lo dico da assolutamente cittadino votato, faccio parte di partito, ma non rappresenta un vanto, non militare per un partito. Adesso siamo arrivati al punto dove si deve vergognare, oppure no, certo. Alcuni parlamentari mi dicono che si devono nascondere, cioè non dire che sono parlamentare, perché se qualcuno sente che sono parlamentare gli si scatena la piazza. Certo. In senso positivo, adesso lo... Effettivamente è qualcosa di cui vergognarsi. Cioè avete una bella, un bel, cioè, compito di recuperare un rapporto che si è inclinato con la bellissima sfida, con la comunità, altrimenti i populismi vincono. Per chiudere tutto arrivederci, voi, grazie. Questo da chiudere. Alimentatore.